25 aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. La storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Benvenuti alla seconda puntata della maratona di lettura del romanzo La carezza e la mitraglia di Massimiliano Gollini. La seconda puntata inizia con il riassunto della prima puntata, sempre a cura dell'autore Massimiliano Gollini. La carezza e la mitraglia. Riassunto. Un uomo torna dalla guerra. Arriva alla stazione dei treni e a stento riconosce la sua città. Con sé non porta nulla, tranne i suoi ricordi e una promessa, che ancora non conosciamo. Aprile 1945. Anima è appostata per uccidere Walter Reder, comandante SS responsabile delle stragi di Montesole. Anima è una cecchina partigiana ed è sola sulla montagna. Reder è arroccato con una piccola guardia armata presso un casolare nel quale vive una famiglia di contadini. Ogni martedì alle 18 Reder fa un bagno caldo mentre ascolta Wagner al grammofono. Da dove è appostata, Anima lo vede attraverso una finestra. Un colpo solo, in mezzo agli occhi, e la guerra sarebbe finita. Elena Beltrami è una ragazzina che appartiene a una famiglia borghese di Bologna. Il papà Umberto, iscritto al partito fascista, è proprietario del caffè Beltrami, che si erge imponente nella via principale del centro. Elena vive in una villa appena fuori città insieme al padre, alla madre e alla sorella Elsa. In una mattina di luglio del 1937, Elena incontra Odino, un ragazzo dal fisico atletico e gli occhi grigi, di qualche anno più grande di lei. Tra i due nasce subito una certa complicità. Elena ha due risorse che rappresentano le coordinate del suo mondo spensierato: l'amica e compagna di classe ebrea Albertina e una mira eccezionale. Il 20 ottobre 1938, poco dopo l'emanazione delle leggi razziali, due funzionari fascisti entrano in classe e portano via Albertina. Elena assiste impotente alla scena e dopo una corsa senza sosta trova conforto solo tra le braccia di Odino. Il suo mondo inizia a sgretolarsi. La carezza e la mitraglia. Legge Daniela Cotti. 11 maggio 1939, giovedì. Elena. Tina, posso chiederti una cosa? Posso impedirtelo? Secondo te? Ecco quindi. Cosa ti è successo quando sono venuti a prenderti a scuola? Perché vuoi saperlo? Perché sono tua amica? Perché me la voglio legare a un dito, quella vigliaccata? E poi? Quando te la sei legata a un dito, cosa fai? Che te ne importa? Perché sono tua amica? Perché non voglio che ti metti nei guai? Cosa fai, copi? Le due ragazzine si scambiarono un sorriso con la bocca piena di pane e challah che, la mamma di Albertina, aveva fatto quella stessa mattina. Ogni volta che Elena andava a casa loro per tenere in pari la figlia con il programma di studi, Flora preparava un dolce ebraico, anche se questo la costringeva ogni tanto a contravvenire la tradizione. «Non è che dopo fai delle cavolate, vero?» chiese Albertina. «Non ci penso neanche», rispose Elena. «Come se non ti conoscessi, guarda che questa è una cosa seria. Lo so, Tina, è una cosa serissima, ecco perché voglio sapere». Albertina aspettò ancora qualche attimo, indecisa, poi disse: «Non ci hanno fatto male, ci hanno portato in caserma, hanno segnato i nomi, ci hanno dato una lettera per i genitori e ci hanno spedito a casa, tutto qui». «Tutto qui?» domandò Elena. L'amica aveva iniziato il racconto dicendo che non avevano subito violenze. Era una cosa che aveva notato tra le altre. «Beh sì, tutto qui. Io, Marco De Paz e Mariolino siamo rimasti in caserma, ci hanno dato dell'acqua e ci hanno fatto aspettare. Non so quanto tempo, ma alla fine avevo fame. Invece il professor Lerner l'hanno messo in un'altra stanza. Ho sentito qualche urlo. Ti hanno preso da scuola come se fossi una criminale. Ti hanno portato via dentro un furgone, ti hanno segnalata da qualche parte e ti impediscono di andare a scuola e tu racconti tutto questo come se fosse stata una gita fuori porta. Non dare di matto adesso, per favore», disse Albertina. «Non do di matto», rispose Elena. «Sono solo arrabbiata, molto arrabbiata, moltissimo arrabbiatissima. Va bene, ma non possiamo farci niente, non trovi? Proprio non ti sopporto quando fai così». «Elena, io sto subendo questa cosa sulla mia pelle e l'affronto come voglio. Ti ringrazio per l'interessamento, ma è inutile mettersi a discutere. Mio padre e alcuni suoi amici stanno cercando di capirci qualcosa. Io non voglio pensarci. Non so come ci riesci. È già un po' che viviamo in queste condizioni. E non siamo gli unici». Albertina aveva già abbassato il tono della voce, ma poi sussurrò: «Le notizie che arrivano è che la guerra scoppierà tra poco». Elena guardò negli occhi l'amica e poi la cucina, cercando di capire se Flora avesse sentito. Non sapeva cosa pensare e non riusciva a comprendere che tipo di relazione ci fosse tra l'antisemitismo e l'arrivo della guerra. Era confusa e per un attimo si perse nei suoi pensieri sfocati. Poi qualcuno bussò alla porta. Le due ragazzine si guardarono e sorrisero ancora, mentre Elena diventò rossa in viso. «Vado io», disse Albertina, e quando tornò, Odino era con lei. Aveva messo una camicia azzurra pulita e un paio di pantaloni che Elena non aveva mai visto. Doveva essere venuto in bicicletta perché alla caviglia destra aveva ancora la molletta che usava per non sporcarsi con la catena. Ai piedi portava i soliti scarponcini con la suola rattoppata, che usava in qualsiasi stagione. Da tempo le era venuta voglia di regalargli un paio di scarpe, ma non si era mai azzardata a farlo. «Alla buon'ora», disse Elena. «Chi ha parlato?» chiese Odino guardandosi attorno. «Tina, hai detto qualcosa?» «Assolutamente no». Sì, fate pure gli spiritosi, intanto io è mezz'ora che aspetto». «Va là, mezz'ora», disse Odino guardando il pane calla. «Guarda lì, te lo sei mangiato tutto». «Io? No, di certo, lo sai che a me non piacciono le cose dolci». Odino si spostò alle spalle di Elena, che era seduta a capotavola, e le mise le mani intorno al collo delicatamente. «Lo sai che se ti stringo in 3 minuti sei stecchita? Forse 2, cretino». «Su, ragazzi», intervenne Albertina, «non siamo venuti per giocare, fuori i quaderni. Odino, inizia tu, facci vedere gli esercizi di questa settimana». Odino prese dalla sacca il quaderno rosso che Albertina gli aveva regalato e lo aprì all'ultima pagina scritta. Una fila di T in corsivo scorrevano lungo le righe prestampate. Elena notò come le lettere avevano la tendenza a inclinarsi eccessivamente verso destra. Una macchia blu imbrattava la parte bassa della pagina. «Odino, quella roba lì io non la voglio neanche vedere», disse. «Dai, Elena», intervenne Albertina. «Guarda come ha fatto bene le lettere, invece». Le passò al quaderno ed Elena lanciò sulla pagina un'occhiata veloce. In effetti, Tina non aveva tutti i torti. «Ne vuoi una fetta?» chiese Elena e finalmente lo guardò negli occhi. Cercava di rimandare quel momento il più possibile, perché sapeva benissimo l'effetto che avevano su di lei i suoi occhi grigi, ma era impossibile farlo per sempre. «Grazie, giusto una, ma nel dirlo ne prese 3. Oh, fa pure come se fossi a casa tua. Sono venuto in bicicletta, ho fame». «Senti, Odino», intervenne Albertina, «la calligrafia va meglio, ma hai letto la cosa che ti abbiamo dato la settimana scorsa?» «Sì che l'ho letta». «Ecco, allora adesso ce la devi leggere ad alta voce», ordinò Elena. Odino aprì il quaderno all'ultima pagina e prese il foglio sul quale Elena aveva scritto l'inizio dell'Odissea. Ricordava a memoria quella parte, ma per un inedito eccesso di zelo aveva controllato il volume che la madre conservava in libreria. Non c'era un motivo preciso per il quale aveva scelto proprio quel testo, ma le era sembrato appropriato. Odino stese il foglio sul tavolo con entrambe le mani, cercando di recuperare le tante pieghe che aveva preso. Poi si alzò in piedi e iniziò a leggere. L'uomo ricco da stuzzi raccontami musa che a lungo erro. Una disgrazia? Urlò Elena. Odino, ma non ti sei esercitato per niente. Sì, ma io lavoro, Elena. Là, lavori, ricomincia. Odino riprese a leggere e quando arrivò alla fine rilesse tutto ancora una volta e un'altra ancora. All'ultima lettura della pagina le parole scorrevano più velocemente e l'impostazione della voce cadeva al punto giusto. Così va meglio, disse Albertina, ma se non trovi il tempo di esercitarti non avrai mai una lettura scorrevole. Lo so, rispose lui, però non potete dire che non mi impegno. Noi diciamo quello che vogliamo, disse Elena. Poi si girò verso Albertina, sfoggiando il suo miglior sorriso da canaglia. Più tardi, Elena e Odino uscirono da casa e si fermarono davanti alla bicicletta che era legata a un lampione poco distante, proprio di fronte al portone. La luce di maggio era ancora forte e la sera non sembrava voler arrivare. Rimasero lì, in silenzio per un po', sospesi in quell'atmosfera fatta di imbarazzo ed energia. «Ti carico fino a casa», disse lui finalmente. Elena se l'aspettava. Era questo il bello di Conodino. Quello che pensava impossibile accadeva sempre. «Lo sai che ogni tanto ti sogno?» domandò lei, cambiando discorso. «Tu sogni troppo». «Non è vero, e fai molte domande». «Ma scherzi?» «Beh, comunque ti sogno. Sei sempre da qualche parte. Ti ho sognato anche in guerra, credo». «Ma non siamo in guerra, lo so. Quindi?» «Quindi io ti sogno in guerra lo stesso. Cosa posso farci?» Se scoppia la guerra, secondo me mi tocca. Non dirlo neanche. Mi tocca invece, ho già 18 anni. Lo so, a te tocca l'esercito, a me il liceo settembre. Viviamo in due mondi diversi, disse Elena, ma poi rimpianse di averlo detto. Rimasero a guardarsi un attimo, poi Elena disse, scusami, non volevo. Lui non disse niente, però le sorrise. Beh, potresti sempre non partire, continuò lei. E come si fa? Non so, ti nascondi. Mi nascondo, non sai quello che dici. Come no? Il fatto che l'Italia vada in guerra mica vuol dire che ci devi andare anche tu. Puoi sempre non essere d'accordo. Posso anche non essere d'accordo, Elena, ma se non rispondo alla chiamata mi arrestano. Meglio in galera che in guerra se non ci credi. Alla guerra, dico. Mi sa che con la deserzione uno viene fucilato. Oh, davvero, non lo sapevo. Ma tu ci vuoi andare in guerra? Odino prese tempo prima di rispondere. Iniziava a sentire il bisogno di cambiare discorso. Non ci ho mai pensato. Non credi che sia ora di pensarci? Si va in guerra per la patria, per un'Italia migliore, per l'impero. Così dicono. Già, così dicono. Cavolo, quanto sei pesante, Elena. Io non... Secondo me la guerra non ha senso, continuò lei ignorandolo. Intanto non è detto che si vinca. Quindi se perdi la situazione anziché migliorare peggiora. E se c'è uno che vince c'è anche uno che perde, poi dipende sempre da che parte stai. Io i fascisti non li sopporto, devo dirtelo, il re neanche. Quindi se dovessi arruolarmi e combattere mi domanderei per chi e cosa farlo. Se non sopporti Mussolini neanche il re, allora con chi stai? Non è che per forza bisogna stare con qualcuno. Ma tuo padre, pensavo che tuo padre, sì, è iscritto al partito fascista. Chi se ne frega? Odino la guardò con aria solenne. Avrebbe voluto essere serio, ma non ci riuscì. Elena Beltrami, lo sapete che potrei farvi arrestare per quello che avete detto? Lei gli diede una pacca sulla spalla e lo incalzò. Odino Verardi, lo sapete che potrei anche mandarvi a quel paese? Dai, salta su. Odino aveva sganciato la bicicletta e legato la catena attorno al sellino. Poi era salito e aveva posato il piede destro sul pedale pronto a partire. Forza, disse ancora. Dove mi siedo? Vuoi dire che nessuno ti ha mai caricata su una bicicletta? Beh, no. Insomma, Non sei mai andata in bici con un ragazzo, non hai mai baciato nessuno, ti devi insegnare proprio tutto. Fermo lì, campione, disse Elena ridendo. Lui allargò le braccia e poi disse, sali dai. E lei salì. Faceva un po' fatica a pedalare perché la statura di Elena lo obbligava a tenere le ginocchia allargate, ma non voleva darlo vedere, così spingeva forte sui pedali. Svoltarono per via Sant'Isaia e attraversarono piazza San Francesco, dove la grande facciata gotica della chiesa brillava rossa alla luce del pomeriggio. Al pratello le persone erano fuori dalle osterie e bevevano i loro bicchieri di vino. Era una meraviglia passare tra i tavolini e gente, schivare i cani accucciati sulle soglie delle case, sentire gli odori confondersi tra loro e ascoltare frammenti di frasi mentre veloci si allontanavano tra i vicoli contorti di quella parte della città. Odino girò per via Pietralata, poi ancora a destra per via San Felice, fino ad arrivare in via Roma. Lì l'atmosfera cambiò. Mussolini aveva voluto un piano regolatore diverso per Bologna, più simile a sentir lui all'immagine che doveva avere una città romana. Il sistema di strade medievali aveva lasciato spazio a un grande viale che scendeva fino alla stazione, correndo parallelo a via Indipendenza, che era poco distante. Pedalare lì era meno faticoso e Odino diede la bicicletta alla giusta velocità perché voleva che Elena sentisse il vento in faccia. E lei lo sentì insieme ad un'euforia scomposta e impaziente che le faceva tremare i polsi. «Più veloce, Odino, più veloce!» urlò. Lui non si fece pregare. La bicicletta correva come un aguzzico mollo nuova di zecca, portandosi dietro i capelli di Elena e la sua gonna, le loro risate, le braccia forti di Odino e tutta la loro vita. Superarono il cavaticcio, girarono ancora a destra, presero via dei Mille a grande velocità e la percorsero in un attimo. Arrivarono in piazza 8 agosto, senza neanche rendersene conto, e alla fine la corsa finì. Al centro della piazza, dove macchine e carrozze erano parcheggiate un po' ovunque, si sentivano così in sintonia che era come se fossero stati assieme per 100 anni. Elena era impreparata a quella sensazione. Ma non era la prima volta che le capitava, grazie a Odino. E nell'incertezza generale del suo stato d'animo, si appoggiò a lui ancora una volta. Non scese dalla bici. Aspettò che fosse lui a farlo, sorreggendola con una presa forte. Poi si girò e ancora lì seduta si aggrappò al collo del ragazzo e strinse forte. Ecco. Forse le cose andarono proprio così, anche se non ne fu mai veramente certa. Un attimo dopo l'abbraccio, Dino si sporse in avanti sfiorandole il viso. Il cuore le batteva troppo forte per capire che quello che dovette fare per non soffocare, per rendere appena sopportabile quella sensazione impareggiabile, fu girarsi verso sinistra, schivando il bacio per un soffio. «Andiamo su in montagnolo, Dino, voglio stare un po' tra gli alberi», disse con un filo di voce. «Non farai troppo tardi, non importa. Portami su». E ripartirono. Attraversarono la piazza girando i tram e gli sguardi della gente. Lasciarono passare un automezzo diretto al lato est dove stavano costruendo la Casa Vittoria, un immenso palazzo che avrebbe dovuto ospitare la 10ª legio fascista. Superarono via Ernerio e arrivarono ai piedi della collinetta, proprio sotto il monumento al Popolano. Per evitare di pedalare in salita, Odino smontò e tenne la bici inclinata leggermente a sinistra. Lei si lasciò sbilanciare e senza accorgersene si ritrovò ancora tra le sue braccia. Risalirono al viale in quel modo, andando avanti in silenzio, con Elena che sentiva il respiro di Odino accanto all'orecchio e allungava la mano per sfiorare i tronchi dei platani. C'era una piccola folla accanto al padiglione della Direttissima e gruppetti di persone parlavano tra loro, allegri. Qualcuno aveva un bicchiere in mano, altri mangiavano qualcosa. Tutti sembravano contenti, con le giacche aperte, le cravatte allentate, e qualcuno era anche senza il cappello. Le risate arrivavano da ovunque. Poco più sotto, nel piazzale dello Sferisterio, almeno 100 ragazzi in divisa eseguivano esercizi ginnici in sincrono, sotto lo sguardo orgoglioso dei genitori. Elena conosceva bene quegli esercizi, perché Umberto aveva obbligato lei e la sorella a partecipare ad alcune parate che si erano svolte allo stadio del Littoriale. Era la prima volta che ne vedeva una dall'alto e si rese conto di quanto fossero assurde quelle adunate. Si ricordò solo in quel momento della mostra del nazionalsocialismo di cui suo padre parlava da un po'. Bandiere del Partito Fascista e del Regno d'Italia sventolavano accanto al portone d'ingresso del padiglione, mentre qualcuno stava facendo suonare canzoncine del regime. Era così scombussolata dalle emozioni sovrapposte di poco prima che subito non riuscì a ricomporre l'immagine che aveva davanti. E quando si rese conto di quello che stava per accadere, era ormai troppo tardi. Elena! Umberto la chiamava da destra. Appena ne riconobbe la voce, si gettò dalla bicicletta sorprendendo Dino. Il padre si era fatto largo tra la gente e aveva portato la sua grande pancia ad un passo. Elena lo guardò aspettandosi un ceppone, invece il padre fece una gran risata e l'abbracciò. Disse: «Elena, sei venuta! Io lo sapevo! Gente, guardate, mia figlia Elena! Essa, vieni Essa, c'è Elena!» Le persone si voltarono e alzarono i bicchieri, mentre Umberto la trascinava via. Anche Elsa le fece un sorrisetto compiaciuto, come per rivendicare una vittoria, ma lei non ricambiò. Invece si girò senza dire niente, indecisa sul da farsi, ancora sconvolta per il violento cambio di prospettiva. Una vita era scivolata nell'altra così rapidamente da confondere le idee. Odino non c'era più. Lo cercò tra la gente, cercò la sua bicicletta, la camicia azzurra, cercò la sua velocità, ma non la trovò. Laddove erano adesso non riusciva a vedere ciò che accadeva nell'altra vita. Le finestre c'erano, ma non facevano entrare luce. A cena non toccò cibo, non per protesta, ma per mancanza di fame. La vita vissuta quel pomeriggio l'aveva sfamata del tutto, rendendole impossibile ingerire qualsiasi cosa. Per fortuna fu Elsa a spiegare a Maria come erano andate le cose all'inaugurazione. Parlando per tutto il tempo con i suoi modi così educati, raccontò che si era anche presentato il podestà in rappresentanza del duce. Ogni tanto Maria la guardava chiedendo un suo parere, ma Elena non aveva niente da dire, o perlomeno niente che in quel momento riuscisse a condividere. Arrivata in camera, si infilò sotto le coperte e rimase in silenzio ad ascoltare. La casa sembrava isolata dal resto del mondo e l'unico rumore che riusciva a percepire era quello del suo cuore. Chiuse gli occhi e sorrise di gioia vera. Avrebbe voluto dirlo a tutti che era felice, ma non lo fece. Aspettò che l'emozione prendesse forma, proveniente da chissà dove, e quando finalmente riuscì a distinguerla con precisione, se la cullò tra le braccia come se fosse un neonato. Era quello l'amore? Non poteva saperlo, di certo qualunque cosa fosse, quel sentimento aveva regole diverse rispetto a quelle del mondo dove tutti sembravano vivere in quegli anni. Si girò verso il comodino e prese lo stesso volume che stava leggendo. Era Anna Karenina di Lev Tolstoi. Aveva iniziato a leggerlo su consiglio di Maria e se n'era appassionata subito. Avrebbe voluto ricopiarne qualche pagina e darla a Odino per i suoi esercizi di lettura. Ma per come andarono le cose, non ebbe mai il tempo di farlo. La carezza e la mitraglia. Legge Yvonne Capece per Sblocco 5, un gruppo teatrale di Bologna. Aprile 1945, martedì, ore 11:09. Anima. Spostò lo sguardo verso destra per guardare il Mosin Nagan appoggiato alla roccia lì accanto. In un momento di calma aveva coperto il fucile con la tela cerata che aveva portato con sé. Era un'arma resistente, ma una parte della camera di compressione era scoperta. Aveva un solo colpo da sparare e non poteva permettersi che l'arma facesse cilecca. Ripensò all'attrezzatura che si era portata. Oltre al fucile, nello zaino c'era una Walther P38 con una scorta di 5 caricatori. Era stata indecisa fino all'ultimo se portare la pistola o no, perché era un chilo di zavorra probabilmente inutile. Se la missione fosse andata come doveva andare, si sarebbe dileguata nel buio, senza bisogno di sparare. Se invece qualcosa fosse andato storto, l'automatica non l'avrebbe aiutata. Ma era affezionata a quell'arma. L'aveva tirata fuori dai guai in un paio di situazioni e dal giorno in cui aveva preso parte alla sua prima sparatoria non se n'era mai separata. E poi l'idea di ammazzare i nazisti con un'arma tedesca era quasi avvincente. Nello zaino c'era la forcella di cui aveva selezionato il legno alcune settimane prima. L'avrebbe usata come appoggio per la canna del fucile. Aveva anche un panno di lana appena sufficiente per coprirle le spalle. Anche questo lo avrebbe lasciato volentieri, ma i suoi compagni l'avevano obbligata. Per nessuna ragione al mondo sarebbe dovuta andare in ipotermia, e l'ipotesi era tutt'altro che remota, data la stagione dell'anno e l'altitudine alla quale si trovava. Infine c'erano i viveri. 2 borracce d'acqua, pane, un pezzo di formaggio e un paio di focacce di farina di castagne. Non aveva bisogno di altro. Nel preparare lo zaino, dispose le 2 borracce sulla destra. Il cibo era impilato al centro secondo un ordine preciso: pane, formaggio, pane, focacce di castagna, pane. Ogni porzione andava consumata tutta e fino a quel momento ne aveva già mangiate 2. Aveva sistemato la forcella di legno sulla sinistra, lasciando che la punta Y uscisse dall'alto, mentre la Walther era nella tasca esterna, insieme ai caricatori. Appena arrivata, Anima aveva messo lo zaino tra le cosce e l'aveva aperto con il fronte rivolto verso di lei. Non era sicura di avere veramente bisogno di mangiare o di bere, ma se fosse stato necessario avrebbe raggiunto tutto con gesti minimi. L'attrezzatura si completava con il giaccone, le manopole e il berretto di lana che indossava fin dalla notte precedente, mentre in tasca, accanto alla lettera, teneva una granata MK2 che un compagno aveva potenziato proprio per la sua missione. Osservò la situazione giù, al casolare. I movimenti dei tedeschi e dei civili erano sempre frenetici. Stavano portando a termine qualcosa che dovevano aver iniziato già da settimane. Rimpianse di non aver fatto qualche sopralluogo i giorni appena precedenti la missione. Ci aveva pensato, a dir la verità, ma poi aveva deciso di non muoversi per evitare di essere vista e di destare qualche sospetto. Anche se era chiaro che la guerra sarebbe finita entro il mese di maggio, i tedeschi e i militi della RSI non avevano ancora consegnato le armi. La carezza e la mitraglia. Legge Ginevra Morali. Venerdì. Elena si svegliò con un urlo. Il respiro si rincorreva e l'aria sembrava non entrare nei polmoni. Più si sforzava di respirare, meno riusciva a incamerare ossigeno. Si mise a sedere sul letto, sopra le coperte, con i piedi che sfioravano il pavimento incotto. La mano sinistra registrava il battito convulso del cuore e aveva l'impressione che a ogni colpo non riuscisse più a ripartire. Guardò la stanza cercando un punto di contatto con il mondo reale. Si concentrò sulla sua scrivania, sul lume, osservò la polvere posata sulle tende di velluto che arrivavano fino a terra. Ogni cosa era evanescente. Si passò entrambe le mani tra i capelli umidi e tirò un poco, giusto per farsi male, e alla fine si calmò. Non si rese conto di quanto tempo le fu necessario, un secolo probabilmente. Riuscì a riprendere il controllo del corpo, anche se il suo stato d'animo non migliorò affatto. Aveva visto Dino e Albertina davanti a sé, di spalle, proprio sull'orlo di un dirupo. Albertina era vestita di stracci, una lunga gonna grigia strappata all'altezza dei polpacci. Lasciava scoperte le caviglie e i piedi nudi erano incrostati di fango e sporcizia. Portava una giacchetta scura che dava l'impressione di non servire a niente. Forse era di lana, trovata da qualche parte, rotta sul gomito e sulla spalla destra. Le guardò i capelli e li vide stopposi, raccolti in una coda di cavallo sbilenca e rinchiusi in un fazzoletto annodato sulla nuca. Accanto a lei, Odino apparteneva a un'altra dimensione. La divisa militare sembrava appena uscita dalla sartoria, così come la giacca e i pantaloni. Tutto era perfettamente sistemato e nuovo, fatto su misura. Ai piedi non portava più i suoi vecchi scarponi, ma un paio di anfibi di cuoio e aveva un enorme fucile appeso alla spalla destra. E poi c'era suo padre. Indossava un grembiule bianco da lavoro sopra uno dei suoi soliti completi scuri e in testa aveva un cappello da cuoco. Teneva in mano un orologio da taschino che guardava con attenzione, mentre nell'altra aveva un fazzoletto bianco. Attorno c'era un mondo alieno. Un sole distratto brillava, sfocato davanti a loro e sembrava emanare un forte vento caldo che alzava polvere e rendeva difficile tenere gli occhi aperti. Guardando più avanti, oltre le tre figure che si stagliavano scure, si riusciva a vedere la vallata che si espandeva ovunque, 100 metri più sotto. La pianura arrivava fino all'orizzonte, si confondeva con il cielo, assumeva lo stesso colore acido che tinteggiava tutto il resto. Nel sogno si guardò le mani e le vide vecchie. Erano le sue, ma proiettate 200 anni in avanti. Si toccò il viso e sentì solo rughe e cicatrici, e quando si passò la lingua sulle gengive si accorse che non aveva più denti. Era stanca e senza forze, e qualsiasi movimento facesse, compreso respirare, era una tortura. Capì subito quello che stava succedendo. Fulguamente troppo tardi. Iniziò a correre, urlando i nomi dei due amici, ma il vento si portava via tutto e le sue deboli gambe, da vecchia, non riuscivano a guadagnare metri. Non avrebbe mai potuto arrivare in tempo. Appena Umberto fece volare il fazzoletto, Albertina tese la mano a Odino e senza guardarsi i due si buttarono di sotto. Elena aveva imparato ad ascoltare i propri sogni e sapeva che i movimenti sotterranei della sua anima spesso anticipavano crepe nella superficie liscia della vita. Così stavano le cose. E quanto più tardi nel pomeriggio, ferma sotto il portico del liceo Galvani, in via Castiglione, con attorno i suoi compagni euforici per la fine della settimana, vide Odino appoggiato a una colonna guardarla con occhi incerti. Si sorprese, soffocata da un sentimento di ansia. Era bello che fosse lì, perché non l'aveva visto per tutta l'estate, e anche settembre era stato un mese povero di incontri. Ma l'incubo della notte prima l'aveva lasciato dentro il sospetto che qualcosa stava arrivando dal sottosuolo per creare voragini. «Cosa ci fai qui?» chiese, e non stava ridendo. «Non sei contenta di vedermi? Cosa ci fai qui? Facciamo un giro. Monta su», disse Odino, indicando la bicicletta, ma lei non si mosse. E restò lì, con il suo sguardo severo, immobile, come il giudizio universale. Lui non aprì bocca, allungò una lettera che Elena rifiutò, fermando il gesto con «no» degli occhi. «Avrei voluto dirtelo, devi credermi», disse con un filo di voce. «Non ce l'ho fatta, prendi la lettera». «No». «Elena, per favore, non complicare le cose, prendila». «No». «Quanto sei difficile, ragazza», disse spingendo la lettera ancora più verso di lei. Elena fissò il pezzo di carta, ma si ostinò a non prenderlo. Guardò la mano di Odino, il braccio, guardò il suo viso, quei maledetti occhi enormi, poi disse: «Non voglio quella lettera, non voglio sapere quello che dice e non voglio che tu sia qui adesso, voglio che tu te ne vada, voglio che…» Ma la voce si sbriciolò. Era una lettera a firma Enzo Fermè, podestà di Bologna, che chiamava le armi Odino e lo spediva ad Addis Abeba, Etiopia, proprio nel Corno d'Africa. Passato il primo momento di sconforto, Elena sedette accanto a Odino sul muretto, alla fine del portico, e lì restò in silenzio, accordando il proprio respiro a quello del ragazzo. C'era uno strano vuoto attorno, una sensazione di abbandono. Faceva effetto vedere un luogo sempre affollato come il Galvani, così deserto, e l'assenza degli studenti amplificava il senso di lontananza che già sentiva. Finalmente lei aveva accettato la lettera e l'aveva letta. Se l'erano passata diverse volte. L'avevano rigirata tra le mani, ne avevano guardato i timbri, sentito i rilievi con i polpastrelli. Era vera. Aveva un suo peso specifico. Occupava uno spazio proprio e a veder bene quel semplice pezzo di carta aveva già dato una direzione alle loro vite. «La lettera è stata spedita più di un mese fa. Perché non me ne hai parlato prima?» disse Elena. «Ci ho pensato», cercò di spiegare lui. «Ci ho anche provato a dirtelo, ma non ci sono riuscito. Ho avuto paura». «E di cosa?» «Se te l'avessi detto un mese fa, avremmo passato quest'ultimo periodo in un mare di tristezza. Almeno io. Ero così contento di stare con te che proprio non ce l'ho fatta. Non dirti niente è stato come dimenticare». Elena non rispose subito. Lasciò che quelle parole restassero sospese lì attorno per poterle riascoltare con calma. Poi però c'era la vita ad attenderla. «Qui non c'è scritto quando parti. C'è scritto che la settimana scorsa dovevi presentarti in caserma, ma non dici quando parti». Lui la guardò e disse solo: «Lo so». «Ti sei presentato in caserma?» «Sì». «Quindi? Cosa ti hanno detto?» «Parto domani». «Domani?» «Sì, domani». «A che ora?» chiese, perché in quel momento le ore avevano un peso. Lui capì e cercò di essere preciso. «Devo trovarmi in caserma alle 7, poi ci portano a Livorno in treno». «Da Livorno a Cagliari il giorno dopo con la nave, facciamo un po' di addestramento, poi da Cagliari a Tripoli, sempre in barca, dopo non lo so». «Non lo sai?» «No, non me l'hanno detto. Forse in treno o in nave per il canale di Suez, se ci fanno passare. Che importanza ha?» «E per me ha importanza. Allora te lo dirò. Comunque la meta finale è Addis». «E come?» lo interruppe Elena. «Come cosa? Come me lo dirai, eh? E come farai a dirmi tutto? Ti scrivo». «Ah, questa la voglio vedere», disse con tono sarcastico. «Adesso non mi offendere, però è un momento difficile. Anche per me», brontolò lui. Ma lei non lo stava ascoltando. «Maledetti!» sussurrò tra i denti. «Questo è l'esercito, Elena. I fascisti non c'entrano». «Come no? Dimmi una cosa, Odino. Se potessi scegliere, partiresti?» «Cosa importa? Tanto non posso scegliere. Dimmelo, partiresti se non ti obbligassero o rimaresti qui?» «Partirei». «Perché?» «Perché questo è il mio paese e devo fare il mio dovere. Ti sembrerà stupido, ma è così». «Non è stupido». «Ma non lo accetti?» «Non accetto che si debba andare fino a Addis Abeba per fare il proprio dovere». «È lì che c'è bisogno. E qui non c'è bisogno, forse? Non lo sai che la Germania ha invaso la Polonia? Non lo sai che c'è la guerra? Ecco perché c'è bisogno di me laggiù. Se l'Italia entra in guerra, bisognerà darsi da fare. Allora, secondo te, tutti dovrebbero partire? Tutti quelli che possono dare una mano. Ma se tutti partissero, allora, qui chi rimarrebbe? Elena, devo partire, così stanno le cose, non posso farci niente». Anche se il tono era stato definitivo, Elena sentì prendersi le mani con dolcezza e quel semplice gesto la convinse a non continuare la discussione. «Facciamo due passi», disse. «Va bene, prendo la bici, però voglio camminare. Come vuoi tu?» Legarono la borsa di Elena al piccolo portapacchi della bicicletta e scesero lentamente per la via di Castiglione. Era un bellissimo pomeriggio di inizio autunno e un vento leggero che arrivava dalle campagne portava con sé l'odore umido delle foglie. Le vie erano pulite e indaffarate, piene di vita. Oppure sembravano distanti. Lei non se ne accorse neanche, ma si stavano tenendo per mano. Fu una cosa naturale, che non riuscì nemmeno a provare l'emozione della prima volta. Dove finiva la sua mano, iniziava quella di Odino. Arrivarono in via Farini e svoltarono a sinistra, restando sempre sotto il portico. I tram passavano ovunque, ma l'ordinanza comunale che impediva il transito alle macchine rendeva la città silenziosa e stranamente grande. In piazza Cavour girarono attorno alla fontana, poi percorsero via Bocca di Ragno per ritrovarsi in piazza Minghetti, dove ad aspettarli c'era un enorme platano centenario. Era una pianta colossale, più alta di tutti i palazzi attorno, maestosa, come una montagna. Le foglie erano ancora verdi, anche se non brillavano più come in estate. Elena trascinò Odino fino alla base della pianta e, senza lasciargli la mano, aderì all'albero con tutta la parte sinistra del corpo. Il ragazzo tirò leggermente dal suo lato, poi appoggiò la bicicletta a terra e anche lui strinse il platano in un abbraccio. Tenendosi per mano, i due non riuscivano a coprire neanche la metà della circonferenza del tronco. Era divertente stare lì appoggiati a quel colosso. Si aveva la sensazione di scaricare cattivi pensieri e ricevere in cambio forza e coraggio. Proseguirono per le stradine medievali dietro l'archiginnasio e finalmente sbucarono in piazza Vittorio Emanuele, la piazza grande della città. Lo spazio si apriva e la luce del cielo irrompeva. In un angolo della piazza, proprio tra l'enorme facciata della chiesa di San Petronio e il palazzo dei notai, c'era un chiosco che vendeva caldarroste. Elena ne comprò un sacchetto e portò Odino sulla scalinata della chiesa, dove finalmente si sedettero. Non avevano più parlato dal muretto dei Galvani. «Però vorrei che tu venissi con me», disse il ragazzo finalmente. «Già andiamo meglio», rispose Elena. «Tu verresti, se ci fosse questa possibilità, verresti con me?» «Non lo so, forse sì, ma non per sempre. Cioè, la mia casa è qui che voglio stare. Lo hai detto tu che questo è il nostro paese. Anche l'Etiopia è il nostro paese adesso. Ah, non il mio. Io abito a Bologna, in Italia, non in Africa. L'Etiopia è degli Etiopi e la Somalia dei Somali. E la Grecia? Sì, Elena, ho capito. Va bene, comunque sì. Forse verrai laggiù con te. Meno male che l'hai detto. Partirei con te, farei il viaggio con te, starei con te finché non ti renderesti conto di quanto sia inutile stare in Etiopia e poi ti porterei a casa. Sei proprio testarda. Non lo so se sono testarda, so che ti riporterei a casa e io ci verrei. Questo invece lo so. Che ore sono? Chiese Elena. Odino guardò l'orologio del palazzo di fronte. Le 3, disse. Hai fame? No, le castagne mi bastano. Tu? Insomma, non hai mangiato prima di venire a prendermi? Non ci sono riuscito, ero troppo agitato. Facciamo un salto al caffè? C'è tuo padre, forse. Che importa, prendiamo una focaccia, ti va? Come preferisci. Sì, preferisco. E ripresero a camminare. Passarono accanto alla foresta del Nettuno, dove bebbero un po' d'acqua. Poi proseguirono per via Indipendenza. Raggiunsero il caffè Beltrami poco dopo e videro che era deserto. I tavolini sotto il portico erano già stati tolti e dentro si vedeva solo poca clienti. Si guardarono giusto il tempo per dirsi che avevano un segreto e che lo avrebbero tenuto per loro. Tuttavia ci volle un po' di coraggio da parte di entrambi per sciogliere i nodi che intrecciavano loro le dita. Un leggero dolore, superato dalla consapevolezza, che sarebbe durato poco. Le mani si chiusero a pugno ed Elena passò il dorso della sinistra sul palmo della destra per sentire la pelle appena umida asciugarsi rapidamente. «Cosa dirà?» chiese Odino mentre posava la bicicletta contro una colonna lì vicino. «Ci penso io», rispose. «Tu stammi vicino». Salirono al piano di sopra e uscirono all'aperto, dove invece i tavoli erano ancora al loro posto. Ne trovarono uno sulla terrazza che dava su via Indipendenza. Era il lato nobile del caffè, frequentato da imprenditori, notai e commercianti. A quell'ora di pomeriggio però le persone dovevano ancora uscire dai loro uffici e gran parte dei tavoli disponibili erano vuoti. Sulla destra, vicino alla parete dell'edificio, una signora e un bambino vestito in giacca e cravatta stavano bevendo il tè. Scelsero due posti vicino al parapetto, proprio sulla strada. Da lì si riusciva a vedere il Nettuno, il lato est del Palazzo del Podestà e il Palazzo Comunale, mentre a nord lo sguardo arrivava fino al ponte di Galliera, un chilometro più in giù. Sulla strada fiumi di biciclette salivano e scendevano la corrente, perdendosi tra le vie laterali. Si sedettero uno accanto all'altra, rivolgendosi a sud per avere il sole in faccia. Sotto il tavolo, il piede destro di Elena si appoggiò al sinistro di Odino. Aveva bisogno di un contatto fisico, seppur lieve. Lui non lo rifiutò, mosse la gamba e incrociò il suo piede con quello di lei. Poi lo tirò verso di sé. Un flusso di energia iniziò a scorrere e tutto divenne più semplice. Carezza è la mitraglia. Legge Valentina Serpi Canaro. Di sotto mi hanno detto che eri qui. Che sorpresa è questa? Ciao papà. Umberto fece il giro del tavolo e baciò la figlia. Poi prese posto occupando una sedia di fronte. Cosa ci fai qui? Chiese. Si comportava come se Odino non esistesse. «Papà, ti presento un mio amico, Odino». Il padre si girò, diede un'occhiata rapida al ragazzo, poi tornò con lo sguardo sulla figlia. «Chi sarebbe?» chiese. Odino allungò la mano sul tavolo dicendo «Odino Verardi, piacere di conoscervi». Non aveva ampi spazi di manovra perché le loro gambe attorcigliate lo obbligavano a restare seduto. «Umberto», strinse la mano senza troppa convinzione. Poi guardò Elena con un'espressione interrogativa. «È un compagno del ginnasio, volevo fartelo conoscere perché domani parte per l'Africa». Sentendo queste parole, Umberto cambiò atteggiamento subito. «Ah, bravo, bravo ragazzo! La patria ha bisogno dei nostri giovani. Bada che la situazione in Abissinia non è ancora sistemata. Dovete fare un bel lavoro». «Farò del mio meglio». «Bene, sono proprio contento, Elena. E tu sappi, giovanotto, che noi ti aspetteremo e che quando tornerai troverai un'Italia forte. Potrai riprendere gli studi se vorrai. Noi non ci dimentichiamo dei nostri eroi. Che classe frequenti?» «La terza ginnasio», disse Odino. «Come?» domandò Umberto. «Prima liceo», intervenne Elena. Sotto il tavolo serrò la stretta. «Voleva dire la prima liceo. È così, sai papà, ha la testa tra le nuvole in questi giorni». «È ovvio, giovanotto, è ovvio. Troverai un grande esercito ad aspettarti, non temere». Ma lei non lo stava a sentire. «Papà, senti, Odino non ha ancora pranzato e nemmeno io. Non è che ci porti un paio di quelle tue focacce? Ci vollero tre camerieri per servire tutta l'ordinazione e non fu semplice sistemare tutto sul tavolino. Il vino, invece, arrivò in un secchiello d'argento pieno di ghiaccio. Umberto stappò la bottiglia di champagne e servì tre bicchieri, uno anche per Elena, cosa che non aveva mai fatto prima. Allora alla tua salute, ragazzo, alla tua salute. Odino ed Elena si bagnarono solo le labbra, mentre Umberto trangugiò il contenuto del bicchiere in un'unica virile sorsata. Poi si servì il secondo giro. Avvicinò la sedia a quella di Odino e disse con un tono di voce basso, confidenziale: «Tra l'altro, ragazzi, attenzione, perché presto entreremo in guerra anche noi». «Chi lo dice?» chiese Elena. «Tu non preoccuparti, ascolta quello che ti dico io. L'azione di Hitler in Polonia è solo l'inizio di una grande stagione e noi saremo tra quelli che vinceranno. Tu, giovanotto, sei tra gli eroi che stanno dando vita al grande impero italiano». «Insomma, è tutto deciso», disse Elena. «Non ci sono possibilità diverse. Presto cadrà anche la Francia. Non ci sono possibilità diverse. Presto cadrà anche la Francia. Mentre in Africa ci terremo il nostro sbocco sull'oceano. La Grecia è nostra, il Dodecaneso, la Libia, la Somalia. Abbiamo preso l'Etiopia e adesso ci prendiamo anche l'Albania. Presto avremo il controllo completo del Mediterraneo e con lo sbocco sul Mar Rosso diventeremo una potenza mondiale. L'asse con la Germania è ben saldo, bisogna cogliere l'occasione». «Sei sicuro? Elena, stai scherzando?» «Beh, no. Hitler ha bisogno di noi più di quanto noi non abbiamo bisogno di lui. Dovrà guardarsi presto le spalle, noi saremo lì. Odino, tu che ne pensi? Dillo ad Elena come stanno le cose». «Io sono fiero di servire il mio paese e di essere al centro dell'azione. Spero anche che non si debba combattere. Ma non ti tirerai indietro se sarà necessario. Farò il mio dovere». «Sai, papà», intervenne Elena, «i genitori di Albertina non lavorano più e penso che loro vedano questa situazione in maniera diversa». Da queste parole partì un lampo che raggiunse la spina dorsale di Odino per arrivargli fino alle orecchie, che iniziarono a ronzare. Senza girarsi, diede uno strattone con il ginocchio, ma Elena rispose stringendo la presa ancora più forte. «Beh, Elena, ma questo che c'entra?» chiese Umberto. «Niente, papà, niente. Dicevo per dire». «Ogni grande azione prevede delle perdite», sentenziò Umberto. «Con tutto il rispetto, intendo. Cosa fanno gli ebrei, eh? Cosa fanno? Accumulano ricchezza alle spalle della brava gente. Tramano contro noi altri. È arrivato il momento di mettere ordine in questo mondo tutto sbagliato. Costi quel che costi. E scusami, ragazzo, non volevo essere così duro, ma così stanno le cose». «Non vi preoccupate, signor Umberto», lo rassicurò Odino. «So quello a cui vado incontro». «Vedi, Elena, lo vedi? Questo è lo spirito dei nostri giovani». «E bravo il nostro soldatino», disse Elena quando Umberto se ne fu andato. «Sei stata terribile», rispose Odino. «Non sapevo più cosa dire». «E cosa vuoi dire? Qui non c'è niente da dire. Prima o poi bisognerà iniziare a fare qualcosa». «Dico, Elena, non è che quando sono via ti metti a fare pazzie, vero?» «Pazzie io? Ma come ti salta in mente?» I due si guardarono per un momento, poi si lasciarono cadere sulle sedie e sorrisero. Il sole colorava i loro visi di un tenue giallo autunno. «Metti quelle focacce nella borsa che ce ne andiamo», disse lui. «E di corsa», fece eco lei. Quando arrivarono a casa di Albertina erano ormai le 5 e l'aria si era rinfrescata. Era ancora presente la coda di un'estate particolarmente calda, ma verso sera si iniziavano a sentire le prime ondate umide. Avevano camminato senza una meta precisa per un po', gustando il pomeriggio, guardando qualche vetrina. La città sembrava tranquilla, anche se ombre lunghe di preoccupazione e ansia raggiungevano ogni vicolo. Elena aveva l'impressione che solo suo padre non si accorgesse della drammaticità della situazione, che vedesse unicamente il lato virile di quanto stava accadendo. «E noi?» chiese all'improvviso lì sotto al portico, appena prima di entrare nel portone del palazzo. Ascoltò incredula la propria voce. Chissà come le era venuta in mente quella domanda. Le parole erano uscite senza controllo, trovando un pertugio che non era riuscita a presidiare. Restò lì, in bilico, convinta di aver dato per scontato cose che solo lei credeva reali. Poi però Odino parlò, azzeccando la risposta al primo colpo. La distanza non farà nessuna differenza. «No? E come?» chiese. «Ah, non lo so come, ma mi sento che è così». Odino è sensitivo!» lo schernì Elena. «Canaglia! Udinì! Odino! Sei impossibile! Ma smettila! Dimmi una cosa, sapientone, se non hai neanche un po' di mira, come farai a sparare, eh?» «Ma io non voglio sparare, comunque mi sono esercitato, infatti sono pronto a sfidarti di nuovo». «Non giocare col fuoco, sai che non hai speranze». «Io ti dico che sono pronto per una nuova scommessa e questa volta il premio mi spetta, ancora più ricco. Sbruffone. Vedrai. Non lo so. Cosa? Se voglio vedere». Entrati in casa, si ritrovarono nella cucina che conoscevano bene, proprio dove si riunivano per il dopo scuola. L'appartamento era silenzioso, sembrava più vuoto del solito. Elena aprì la borsa ed estrasse le focacce e le paste dolci che aveva preso al caffè Beltrami. Ce n'era parecchie. «Prendi», disse ad Albertina. «Elena, che fai? Non importa. Oh, non sono mica per te. Siamo stati da mio padre, lui ci ha riempiti di queste schifezze che noi non mangeremo mai. Se non le vuoi, buttale». Lo disse guardando Odino con la coda dell'occhio e quando tornò sul tavolo vide che Albertina aveva già preso due piatti dalla Madia e aveva iniziato a separare le paste salate da quelle dolci. «Aspetta un attimo, Elena, sei stata al Beltrami con Odino?» «Certo». «Oddio, e tuo padre? Era entusiasta?» «Non ci credo». «Oh, voi due, smettetela di prendermi in giro». «Non ti stiamo prendendo in giro», intervenne Odino. «Abbiamo anche aperto una bottiglia di champagne». «Andate a quel paese, va là?» Elena fece cenno ad Odino e lui lanciò la lettera del podestà sul tavolo. Atterrò proprio di fronte ad Albertina. «Vacca miseria!» disse dopo averla letta. «Esatto!» risposero Elena e Odino in coro. «Ma sul serio?» «Sì, parto domani». «Domani?» «Di prima mattina!» intervenne Elena. «Va in gita a Livorno. Poi la comitiva si sposta in Sardegna per un paio di giorni di riposo e alla fine tutti in crociera fino a Tripoli, dove avranno caldissime giornate di mare e bagno turco con i massaggi e tutto il resto». «Cretina!» «Zitto tu!» Albertina guardò l'amica e si avvicinò. La strinse senza dire niente ed Elena ricambiò l'abbraccio, lasciandolo solo quando decise che doveva finire. «Sediamoci, ragazzi», disse Albertina. «Odino, ma da quando lo sai?» «Non affrontiamo questo discorso, Albertina», disse Elena. «Anche tu l'hai saputo oggi?» «Sì, il genio si è presentato al Galvani con una faccina d'angioletto e mi ha portato la lieta novella». «E quanto sarai via?» «Ah, giusto», intervenne Elena guardandolo. «Quanto sarai via?» «Non lo so», rispose lui. «La leva è 2 anni, immagino siano previste licenze, almeno spero». 2 anni?» chiese Albertina. 2 anni?» fece Elena. «È il periodo di leva. Peccato che mio padre ci ha dato il suo autorevole punto di vista sull'entrata in guerra dell'Italia. Quindi potrebbero diventare 10. «Che situazione, ragazze», intervenne Albertina. «Proprio una situazione del cavolo». «Chi lo dici? Non diventeranno 10, Elena», disse Odino. «E come fai a saperlo? Sono 2 anni di leva, poi torno. Se ci sarà la guerra, magari dovrò ripartire, come tutti. Ma intanto tornerei per un po'». Senza rispondere, Elena si girò dall'altra parte e buttò giù un lungo sorso d'acqua. «Albertina, voi come ve la state cavando?» chiese Odino guardando l'amica. «Così così», rispose. «Ma ci siamo un po' stabilizzati. A Bologna la comunità ebraica non è grande. Questo è un bene, perché riusciamo a non farci vedere troppo. Ci sono i posti, appartamenti, dove facciamo un po' di baratto. In questo modo riusciamo ad avere tutto quello che ci serve, quasi tutto. E con i soldi? Domandò Elena. Mio papà ha preso via tutto dalla banca. Ci bastano, almeno per un po'. Ma non siamo qui a parlare di me, vero? I tre restarono in silenzio per molto tempo e Albertina ne approfittò per mangiare qualche pasta dolce. Oltre all'assenza di qualsiasi rumore, a Elena pesava il freddo che c'era in quell'appartamento. Si guardò attorno, ma non vide legna da ardere e la stufa era spenta. Non disse niente, si strinse solo un po' a Odino. «Me la dite una cosa?» chiese il ragazzo. «Non so se sei nelle condizioni di chiedere niente», disse Elena severa. «Dai, Elena, piantala. Guarda che lui qui quello più in difficoltà». «Oh, grazie, Tina», disse Odino, «sono commosso». «Va bene, Odino», disse Elena, «cosa vuoi? Mi assicurate che per il periodo nel quale sarò via starete sempre insieme?» Elena e Albertina si guardarono un attimo, poi si presero la mano sopra il tavolo. Dall'altra parte Elena portò la sua mano e quella di Odino sul piano di legno e il ragazzo allungò il braccio per prendere la mano di Albertina. Restarono così, intrecciati, con i pensieri sospesi. Poi, però, nessuno rispose alla domanda. Ed eccoli lì quei due. Lei a tenersi forte al manubrio, lui a spingere su quei pedali neanche dovesse affrontare la curva delle Orfanelle e arrivare in cima al colle di San Luca. Via Nosadella, piazza Malpighi, il portico del Pavaglione. La sera era giunta da poco a Bologna, era una grande giostra di luci che scivolava via con l'eco delle loro risate. Elena aveva chiesto ad Albertina una coperta e proposto ad Odino di andare ai giardini Margherita. Da qualche tempo l'accesso era proibito perché i militari avevano allestito il campo ippico, ma sperava di trovare un ingresso nella parte più alta del parco. Arrivarono in viale Giurini e lo percorsero costeggiando la recinzione, fin quando non raggiunsero un'area più simile a un bosco che non a un giardino pubblico. La vegetazione sul perimetro era stata lasciata incolta e aveva invaso anche i margini della strada. Non ci fecero caso, legarono la bicicletta a un albero, presero la borsa di Elena e la coperta e proseguirono a piedi. Trovarono un punto dove il reticolato era staccato da terra. Con un leggero sforzo Odino riuscì ad alzarlo, quanto bastava per farci passare Elena. Poi fu lei a reggere la rete e lui ci strisciò sotto, con un movimento agile. Si presero per mano e iniziarono a correre. Usciti allo scoperto, si resero conto che le stalle erano quasi deserte. I cavalli dovevano essere tutti nei box e si vedeva solo il guardiano notturno spazzare l'aria con un po' di pigrizia. La sera era fresca e il cielo terso e buio come il fondo di un pozzo. Non c'era luna e la mancanza di illuminazione a terra faceva esplodere la Via Lattea. Si sistemarono sul prato stendendosi sopra la coperta. Elena tirò fuori dalla borsa due focacce che non aveva dato ad Albertina e la borraccia d'acqua che portava sempre con sé. «Domani i tuoi ti uccideranno», disse lui. «Amen, sto bene così». «Sì, altrimenti non sarei qui», disse Elena allungando una focaccia al ragazzo. «Sei pronta per la sfida?» «Dai, Odino, ma cosa stiamo a fare?» «È una questione di principio». «Come vuoi. Non preferisci mangiare prima?» «No, altrimenti mi appesantisco». «Ma va là». «Allora, lo vedi quell'albero laggiù?» chiese Odino alzandosi in piedi. «Lo vedo appena. Hai bisogno di occhiali?» «No, è buio». «Soppa, Elena. Dai che lo vedo, un leccio. Avrà 5 anni al massimo e più un leccino». «Ecco, un leccino. Perfetto. Saranno 10 metri». I soliti 3 tiri, chi lo prende per più volte vince, se non lo prendiamo nessuno vince, se lo prendiamo lo stesso numero di volte andiamo avanti finché uno dei due non sbaglia. E chi vince cosa vince? Lo sai. Beh, io so quello che vorresti vincere tu e comunque non vincerai mai, Ma tu non sai quello che vincerò io? Cosa? Vincerò un tuo giro di corsa nel parco, in mutande. Ma dico, sei pazza? Mi farai arrestare? Perfetto, così non parti. Così mi fucilano. E allora niente scommessa. Dai Elena, io una come te non l'ho mai conosciuta, veramente. Non sei capace di fare le cose normali per una volta? Elena lo guardò da sotto in su con un sorrisetto arrogante, calcolando la distanza che li divideva. Pure quello fu uno di quei passaggi della vita che non capì mai fino in fondo. Le cose accelerarono più del previsto e anche se fu lei a provocarle, quando accaddero ne fu sorpresa. Così, con una voce proveniente da un'altra dimensione, si sentì dire «Fare le cose normali? Normali? E tu, allora? Questa storia delle scommesse? Odino, se vuoi baciarmi, perché non lo fai e basta?» E mentre lo vide avvicinarsi, mentre la abbracciò e con un gesto leggero la invitò ad alzarsi sulle punte, mentre il loro respiro si intrecciò, Elena scivolò in una nuova vita, fatta di emozioni forti e sconosciute, e là rimase, ben oltre la durata di quel primo bacio. Fu un volo leggero, lento, un po' liquido, un volo instabile ma potente. Si accorse subito che niente sarebbe mai più stato come in quel momento. Niente. Ciò che sarebbe accaduto dopo, ogni cosa, buona o malvagia, ogni emozione, tutte le emozioni, perfino ogni sospiro, avrebbe avuto quel termine di paragone. E l'effetto fu retroattivo. Le cose si misero in fila, si organizzarono. Ogni dubbio ebbe il giusto peso e ogni persona il proprio ruolo. Ogni fatto un senso. Un po' come quando accordi una chitarra, dove una nota mette in fila le altre. Ecco, proprio così. Quando atterrò, era ancora abbracciata a Odino, il viso a un millimetro dal suo, e aveva male ai polpacci. «Quante ne hai baciate adesso di ragazze?» gli chiese. «La verità? Una. Davvero? Sì. Sbruffone. Perché? Un anno fa hai detto due, ora dovresti essere a tre. Sbruffone? Ma mica potevo fare la figura del pretino. Beh, comunque non ti credo. Mi sopravvaluti. Proprio no. Elena, devo dirti una cosa. Sentiamo, aspetta, sei sposato e hai tre figli?» Lui la guardò sorridendo, impazziva per quel suo carattere dolce e rissoso. Carezze e mitraglie insieme. Disse, «Se anche ne avessi baciate 100 di ragazze, quella di stasera sarebbe stata comunque la prima volta». «Insomma, Odino», sbuffò lei guardando di lato, «ti odio. Ti odio un sacco. Posso farti vedere una cosa?» «Certo. Cioè, non so se la vedrai, ma puoi sentirla. Faccio tutto quello che mi dici di fare». «Sì?» «Sì. Allora non partire». «Stupida, avanti, fammi vedere». Elena si scostò e si sedette sulla coperta. Poi si tolse la scarpa destra. Si alzò la gonna fino alla coscia, slacciò la calza e se la sfilò. «Non stare lì impalato», disse, «vieni qui». Odino si avvicinò ad Elena, gli mostrò la pianta del piede, indicando un punto preciso. Lui prese la caviglia della ragazza e si avvicinò ancora. Il buio gli impediva di vedere bene, ma passò un dito, sfiorando la pelle proprio dove indicava lei. Notò subito un piccolo rilievo, che percorse avanti e indietro diverse volte. «Così mi fai il solletico? Ti è rimasta una cicatrice? L'hai riconosciuta?» «Domanda inutile», rispose Odino. Si sedette accanto a lei, le prese entrambe le gambe e tirò verso di sé. «Allora devo darti una cosa», disse lei. «Ho già tutto quello che mi serve. Dico davvero, devo dartela, voglio che la porti con te». Prese la borsa e tirò fuori una piccola scatola di ceramica che aprì con lentezza. «Sembra molto delicata», disse il ragazzo. «Lo è, ma la tengo io, che la rompi subito. Tu prendi questa». Estrasse il contenuto dalla scatola e lo porse a Odino. Lui allungò la mano e si trovò sul palmo una scheggia di legno, grande almeno come il dente di un leone. Rimasero lì, immobili, a guardare il pezzo di legno nella luce tenue della sera. Poi lui chiuse la mano a pugno e si sporse verso la ragazza. L'alba li raccolse e se li portò via. Un leggero strato di foschia copriva il prato e quando si alzarono videro le chiome degli alberi sopra un sottile tappeto azzurro e rosa. Avevano dormito lì, uno abbracciato all'altra, avvolti come potevano nel panno, per la prima volta soli. La notte era scivolata nel giorno senza che se ne accorgessero e aveva lasciato loro addosso una spessa patina di umidità. Solo il nitrito di qualche cavallo laggiù dava al paesaggio una dimensione reale. «È ora», disse lui. «Non è vero». «Elena, te l'ho già detto che ti odio?» chiese lei abbracciandolo più forte. «Almeno 100 volte. Mi accompagni in caserma?» «No, non credo di farcela». «Va bene, lo capisco». «Te la caverai?» gli chiese. «Puoi contarci. Tu piuttosto. Io ti aspetterò. Davvero, davvero. Ti scriverò, Elena, ogni volta che potrò. Ti racconterò tutto. Non ti sentirai mai sola». «Mi sento già sola». «Non dire così, per favore. Va bene, non mi sento sola». «E quando tornerò, tu dove sarai?» «Prima promettimi che tornerai». «Certo che tornerò. Di promesso. Elena, ti prometto che tornerò. Qualsiasi cosa succeda laggiù, e qui. Io tornerò. Via Nosadella 27. A casa di Albertina?» «Sì. E i tuoi? Via Nosadella 27. È lì che devi tornare». «Agli ordini, comandante». Gli lanciò uno sguardo definitivo, ma anche dolce, e disse: «Sei un imbecille». Avrebbe voluto prenderlo a pugni. Invece lo baciò ancora. Poi la scena finì, così come doveva finire. Restò ferma a guardare Odino allontanarsi, fin quando non lo vide sparire dietro la siepe. Se ne andò senza esitazioni e lei non lo chiamò. «Cavolo!» sussurrò. Puntò gli occhi sulle cose sparse nell'erba, sui suoi vestiti. Le tremavano le gambe, aveva la schiena irrigidita e freddo ai piedi. Indossò le calze, poi la gonna, abbottonò la camicetta e iniziò a sistemarla, ma ci rinunciò subito, preferendo lasciarla stropicciata in segno di protesta. Poi scosse il panno, lo piegò e lo infilò nella borsa. Era pronta, ma prima aveva una cosa in sospeso. Raccolse alcuni sassi, si girò verso il leccio e prese la mira. 3 tiri, a distanza di mezzo secondo uno dall'altro, lanciati con rabbia. Colpirono l'albero in sequenza, tutti nello stesso punto. Toc, toc, toc. La breve raffica echeggiò lì attorno e poi si spense, lasciando dietro di sé una profonda ferita nella corteccia. «Sbruffone», disse. Raccolse la borsa e sparì nella luce del giorno. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. l'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi, passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi morsi e affanni per mille anni, mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo, che bella compagnia. Spiato illudermi e fallire, ma portare i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia. la carezza e la mitraglia. Legge Valerio Canetti. Luglio 1946, giovedì, ore 10:25. Il giorno in cui tornò, uscì dalla stazione attraversando il viale, girò a sinistra, percorse il breve tratto che lo divideva dal giardinetto e raggiunse Porta Galliera. Da lì iniziò a risalire verso il centro, seguendo via Indipendenza. Provò una strana sensazione nel rivedere la sua città. Non era una questione di tempo, ma di distanza. Come se l'essere stato così lontano e aver vissuto esperienze così forti avessero modificato, oltre a tutto il resto, anche la forma dei suoi ricordi. La vita ti cambia, pensò, e non sempre lo fai meglio. Il teatro diurno Arena del Sole era distrutto dai bombardamenti. Un'intera ala era sparita, ridotta a un ammasso di mattoni e calcinacci. Di fronte all'edificio, poco oltre il portico, un trame era accasciato sulla sua carcassa, privo della parte posteriore, mentre i binari sui quali un tempo aveva viaggiato erano divelti e contorti. La gente passava attorno al relitto senza prestarvi attenzione, abituata a quella vista, ma soprattutto assuefatta al caos che stava dietro quel paesaggio devastato. E la scena poco oltre non era diversa. La parte destra dell'imponente Hotel Baglioni non esisteva più. Qualcuno stava lavorando pigramente tra le macerie, cercando di fare ordine dove sembrava essere impossibile riportare tutto alla normalità. Anche se la guerra era finita da tempo, ebbe l'impressione che la causa di quelle distruzioni fosse ancora in agguato e pronta a colpire di nuovo. Il giorno in cui tornò si rese conto di non aver certezze, ma solo un umore sospeso tra felicità e sconfitta, prospettiva e rassegnazione. La città gli aveva insinuato il dubbio, una sensazione, un piccolo fremito nello scorrere naturale delle cose. Indietreggiò qualche passo fino al centro della strada e si massaggiò la gamba dolorante. Il giorno in cui tornò, iniziò a correre. La carezza e la mitraglia. Legge Nicola Del Corno. Dicembre 1942, giovedì. Elena. 1940, 1941, 1942. Gli anni fuggivano come un'auto da corsa in una mille miglia. A vederli da lì, sola e impaurita com'era, sembravano anni dispersi, precipitati in una spirale che portava con sé prospettive ogni giorno più cupe. In cuor suo sarebbe tornata al punto di partenza. Avrebbe fatto di tutto pur di cancellare quegli anni dalla memoria. Ma quella era la realtà e non c'era niente che potesse fare per cambiarla. Ogni tanto, Elena si faceva prendere dalla malinconia, non per il tempo passato, quanto per la vita che avrebbe potuto vivere e invece non aveva vissuto. La mente si sradicava dal mondo e restava sospesa nel vuoto, per un tempo che non riusciva a calcolare. Era proprio come guardare il paesaggio fuggire, attraverso i finestrini di un bolide lanciato a tutta velocità. Qualcuno l'aveva forse messa nell'universo sbagliato? Ripensava spesso alla notte passata con Odino, a quel preciso punto di equilibrio. Rivedeva i suoi vestiti sparsi sull'erba, la luce tremula del primo mattino, lui che se ne andava. C'era qualcosa oltre al sentimento, qualcosa di simile a una scelta, a una presa di posizione arrivata dopo la scoperta che i mondi nei quali aveva vissuto fino a quel bacio, così distanti tra loro, erano evaporati. Nessuno l'avrebbe più trascinata in una vita non sua, mai più. Adesso la sua era una vita di resistenza. In un mondo che pareva troppo affollato, l'attesa la portava alla solitudine, e la solitudine alla malinconia, e la malinconia conduceva alla rabbia. L'Italia era scesa in guerra accanto alla Germania, ma la situazione che Mussolini aveva descritto come la migliore possibile si era rivelata difficilissima. L'esercito aveva collezionato solo sconfitte e anche sul fronte interno la situazione era diventata presto insostenibile. Non si trovavano più generi alimentari, il pane era razionato, così come la farina e il grasso animale. I medicinali erano spariti del tutto e molte scuole avevano chiuso. Ma oltre a questo c'era la cattiveria della gente. C'erano gli spietati e i troppo buoni, e pur essendo ben delineato il confine tra il bene e il male, sfuggiva a ogni presa. Il mondo non era più lo stesso, e anche se aveva iniziato a vivere la vita rimasta in campo con energia, Elena non sapeva bene in che modo interpretarlo. 1940, 1941, 1942. Quando l'Italia dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna, Umberto reagì con vigore. Quel giorno non chiuse il caffè e non permise ai suoi dipendenti di raggiungere la massa in festa. Intensificò i turni di lavoro, si mise il grembiule e servì lui stesso ai tavoli. Nonostante i razionamenti imposti dalla carta annonaria entrata in vigore il maggio precedente e malgrado l'impegno bellico, il proprio dovere era quello di continuare a produrre dolci. Invece, alla notizia, Elena reagì con rabbia. Ormai la distanza che la divideva dalla sua famiglia era così marcata che nemmeno riusciva più a misurarla. Era al ginnasio quando apprese. Non aveva legato con nessuno dei suoi compagni. Così, appena si diffuse la voce tra i corridoi della scuola, corse in portineria per leggere il resto del Carlino. E non tornò in classe. Non era la prima volta che marinava la scuola. Ma non era mai successo che se ne andasse a metà mattina senza nemmeno prendere con sé i libri. Raggiunse Albertina e restò da lei ad ascoltare la radio. La sera, quando tornò a casa, passò dal retro, si arrampicò sul nocio svaldo ed entrò in camera dalla finestra, che per abitudine lasciava sempre socchiusa. Quando accese la luce, vide sua madre seduta sul letto. Non era arrabbiata e non la stava aspettando per rimproverarla. Dai suoi occhi, da come teneva le mani unite in grembo, dalla tenue energia che il suo corpo emanava, Elena percepì che si era rifugiata in camera sua perché non sapeva dove altro andare. Non dissero niente. Si abbracciarono e si addormentarono con l'idea di non svegliarsi più. Nel frattempo, le lettere di Odino arrivavano lente, come l'incedere delle stagioni. Le aspettava ogni mese, ogni settimana, ogni ora. Le aspettava sempre. Spesso ne arrivavano due insieme, altre volte passavano mesi senza che il postino portasse nulla. Odino aveva pian piano affinato il suo italiano e anche la grafia andava migliorando. Erano lettere che parlavano della vita nell'esercito. Ed Elena si sorprese nel leggere tra le righe la serenità con la quale viveva quei giorni. Non aveva avuto occasione di sparare e la sua sembrava essere una missione di presidio e controllo. Un giorno raccolse le lettere e le stese sul letto per vederle tutte assieme, come se la massa occupata da quel cumulo di carta le restituisse un po' del suo corpo. Cercava conforto ovunque. Quando lei rispondeva, però, non trasmetteva la stessa serenità. Le sue erano lettere arcigne, confuse, piene di rabbia, scritte nel rancore. In quelle lettere Elena era il filtro tra la realtà del paese e l'immagine che la stampa di regime diffondeva. Si era posta quell'obiettivo. Voleva far capire a Udino il volto del declino al quale tutti stavano assistendo senza rendersene conto. E lui rispondeva incuriosito, chiedeva approfondimenti, precisazioni. Spesso sembrava non capire, ma voleva sapere. Ovviamente le lettere non bastavano. Elena aveva bisogno anche di sentire la sua voce e di saperlo vicino. La sua era una mancanza che riempiva tutti i vuoti che la vita lasciava. E così ogni lettera iniziata per urlare rabbia e ribellione finiva sempre per sciogliersi in un nuovo, improbabile abbraccio. 1940, 1941, 1942. Nel maggio del 1941 gli inglesi sconfissero l'esercito italiano ed entrarono ad Addis Abeba. Una fetta del mondo di Elena sparì nel nulla. Quel giorno trovò Albertina ad aspettarla fuori scuola. Insieme andarono al palazzo del comune per vedere le liste dei caduti e dei dispersi in guerra. Non aveva mai provato un'emozione così spietata. Cercare il suo nome tra i morti, dover passare la lista più volte perché la vista si offuscava dopo ogni singolo nome. Odino non c'era. Non c'era quella volta e nemmeno trovarono il suo nome tutte le volte che andarono a leggere quell'elenco. Decine e decine di volte. Ci andarono tutte le settimane, spesso due volte a settimana. Anche se Tina l'accompagnava, quando leggeva i nomi dei caduti, Elena era sempre sola. Continuava a ricevere lettere da Odino, ma nessuna era stata spedita dopo maggio 1941. Erano luce di stelle. Raccontavano una vita che non c'era più, quando smise di leggerle e quando provò a rispondere, le sue tornarono al mittente. Dopo l'ennesima lettera arrivata fuori tempo, Elena volle rivedere i giardini Margherita. Lo fece in un pomeriggio di maggio, raggiunse il parco anziché andare a casa per la cena. Non era più tornata da quella notte e quando arrivò sul posto si domandò come avesse fatto ad attendere tutto quel tempo. Il campo militare era stato smantellato e gran parte del perimetro era occupato dagli orti di guerra. Raggiunse il luogo esatto dove avevano passato la notte e si avvicinò al leccio che si ergeva rigoglioso e fiero, giovane guardiano dei suoi ricordi. Passò una mano sulla corteccia del tronco, infilando il pollice nella profonda ferita che il tiro dei tre sassi aveva inferto. Chiuse gli occhi e restò in ascolto. Una sera Umberto tornò a casa portando la notizia che il partito fascista di Bologna aveva introdotto una misura punitiva per colpire chi si dimostrava pessimista o scettico nei confronti dell'azione bellica. Il rituale degli schiaffi si applicava a chi non si alzava in piedi nei locali pubblici durante i bollettini di guerra. Si vantò di aver impartito la salutare lezione a un antifascista che quel pomeriggio era rimasto seduto a un tavolo del caffè Beltrami. Elena sentì che non poteva più restare a guardare. Per indole avrebbe voluto agire da sola, ma quando ne parlò con Albertina si fece convincere che fosse meglio avvicinarsi a un gruppo antifascista già attivo. E così fece. Prese contatto con un ragazzo che aveva conosciuto a scuola, il quale le diede il nome di un compagno di terza liceo. Iniziò così la sua attività clandestina. Distribuivano volantini lasciandoli in posizioni strategiche, senza farsi vedere, e di notte organizzavano gruppi per scrivere frasi contro il regime in zone ritenute cruciali. Quelle notti non dormiva. Usciva dalla finestra dopo cena e tornava che era già l'alba. Si presentava a colazione cercando di darsi un contegno almeno normale. Poi prendeva la bicicletta e andava a scuola. Il suo rendimento calò drasticamente, ma non se ne preoccupò, anzi, quasi, andava fiera delle sue insufficienze. Le notizie dall'Africa iniziavano ad arrivare con dettagli più veritieri. Anche se l'esercito era caduto, i giornali raccontavano che nuclei di coraggiosi soldati stavano ancora difendendo diverse aree dell'Etiopia, soprattutto nella zona della città di Gondar. Ma Elena era certa che Udino non facesse parte di quei gruppi. Le lettere si presentavano adesso con un'ombra di pessimismo che la censura non riusciva a cancellare. E lettera dopo lettera il pessimismo si trasformò in rabbia. Si stava facendo l'idea che Odino, con il passare dei mesi, si stava rendendo conto che i motivi per i quali era partito non avevano alcun fondamento. Elena continuò a cercarlo, nelle liste dei caduti e dispersi, ma nemmeno quando venne pubblicato l'elenco dei soldati deportati nei campi di lavoro in Sudafrica, trovò il suo nome. 1940, 1941, 1942. Nell'agosto del 1942 le condizioni di salute di Maria peggiorarono e per la prima volta i medici iniziarono a parlare di brutto male all'intestino. Così dissero, brutto male. Cosa devo fare contro un brutto male? Si domandò più volte. Non sapeva come comportarsi, come insistere con i dottori affinché non si rassegnassero. Accompagnava Maria in ospedale, si prendeva cura di lei come poteva. La malattia aveva anche riavvicinato le due sorelle, ma solo un poco. Elsa non capiva Elena, non l'aveva mai capita e si teneva a distanza. Tuttavia aveva accettato l'aiuto che Elena stava dando in casa e il conforto che solo lei sembrava saper dare a Maria. Come la madre, non rinunciò alla lotta. Per non creare sospetti, riprese a studiare e anche quell'anno fu promossa in tutte le materie. A settembre, il Comitato Unitario di Azione Antifascista riunì formalmente per la prima volta. L'incontro era nell'appartamento di Corrado Martini, in via San Vitale 42, e si trattava di un direttivo al quale parteciparono i dirigenti del PCI, del Partito Socialista e del Movimento di Unità Proletaria. Elena li aveva conosciuti tutti in diverse occasioni, anche se era rimasta ai margini dell'impegno politico. Quella sera prese accordi con Silvano, il coordinatore del gruppo del quale faceva parte, e aspettò l'esito dell'incontro sotto il portico di fronte al portone. Intuiva che da quella riunione sarebbe uscito un gruppo di lotta meglio strutturato e non voleva lasciarsi sfuggire le prime impressioni del compagno. Quando Silvano uscì, appoggiò le mani sulle sue spalle e disse solo: «Tot che facesta! Siamo operativi, Elena, siamo operativi!» A novembre, Albertina venne precettata al lavoro. La direttiva era stata emanata il 6 maggio, ma era destinata ai maggiorenni. La lettera arrivò con grande tempismo il giorno dopo il suo compleanno. Elena fu così colpita da quella notizia che si convinse di andare dal padre, chiedendo di prendere Albertina in laboratorio. In qualche modo avrebbe potuto vigilare, assicurarsi che l'imposizione non fosse così opprimente. Ma Umberto negò il permesso. La situazione al caffè è già abbastanza difficile, senza bisogno di avere ebrei tra i piedi, le disse, senza nemmeno guardarla. Albertina finì alle catene di montaggio della Ducati, nel nuovo stabilimento di Borgo Panigale, e così si conclusero anche i loro pomeriggi di studio. La spirale sembrava inarrestabile e ogni giorno la discesa era sempre più ripida. L'anno si concluse così. La famiglia raccolta al fuoco a ostentare una inutile ricchezza. Elsa, che sembrava di non accorgersi di nulla, Umberto e Elena seduti all'estremità di un tavolo di cui non si vedeva la fine. E poi venne il 1943. La carezza e la mitraglia. Leggono Nicole Vighi per Sblocco 5 e Sara Nanni. Aprile 1945, martedì, ore 12, anima. Da qualche parte, oltre al bosco, stavano facendo suonare le campane. Cercò di individuare la provenienza del suono, ma l'eco rimbalzò così tante volte tra le montagne che non riuscì a capirlo. Nasceva dai boschi, arrivava in cielo, si faceva trasportare dal vento. Era un suono che associava l'odore del soffritto per il ragù, fin da quando era ragazzina. In quegli anni le campane della chiesa avevano continuato a suonare e lei aveva aspettato ogni giorno quei rintocchi che segnavano il passo di metà giornata. Stranamente lo interpretava come un suono laico, un canto della natura. Sapeva che non era così, ma la sua versione dei fatti era quella. Prese dallo zaino una frittella e iniziò a mangiarla, cercando di masticare lentamente. Le piaceva il gusto della farina di castagne, era un sapore di terra e di muschio e faceva odore di fumo. Le ricordava quei luoghi, quei boschi, quegli antichi casolari, le famiglie contadine che dividevano un pezzo di pane in 10. Era l'unica tra i partigiani a capire fino in fondo l'atteggiamento della gente di montagna. Avevano paura dei fascisti e dei tedeschi. Anni di violenza le aveva annichiliti e la povertà aveva fatto tutto il resto, ma la paura di ritorsioni e rastrellamenti sommari li spingeva a restare alla larga anche dai partigiani. E poi c'erano i briganti. Passavano di fattoria in fattoria, spacciandosi per guerriglieri, chiedendo viveri e saccheggiando le case quando le loro richieste non venivano esaudite. Era capitato di catturare qualche impostore. Alcuni erano stati giustiziati, ma la diffidenza era una spina profonda da togliersi dal fianco. Finì di mangiare la porzione che si era riservata per quell'ora del giorno, beve un sorso d'acqua e si mise comoda contro il faggio. Guardò verso il basso e all'improvviso capì cosa stava realmente succedendo davanti a lei. Vide qualche movimento nella camera di Röder. Due persone erano entrate. Avevano aperto l'armadio e avevano appoggiato una pila di vestiti sul grande letto matrimoniale. Da quella distanza non riusciva a vedere bene la scena, quindi incuriosita decise di usare il cannocchiale del fucile. Dall'altra parte era l'ora del rancio e l'aia si era svuotata. Restava sempre la sentinella, che era cambiata rispetto alla mattina, ma la situazione era tranquilla. Poteva azzardare qualche movimento. Estrasse lentamente la forcella dallo zaino, infilò la parte dritta nello scarpone sinistro e strinse con le ginocchia la parte alta, appena sotto la cima Y. Poi si sporse verso la roccia, prese il fucile del calcio, tolse la cerata e appoggiò la canna sulla forcella di legno. Inforcò il Mosin-Nagant e appoggiò l'occhio sinistro al cannocchiale e attese. Quella sensazione, ancora una volta, un misto di potere e adrenalina e sicurezza e fiducia. Un senso di protezione, il suo fucile. «Fatemi incazzare, razza di nazisti», pensò. Spesso aveva spremuto coraggio dall'arma che impugnava, fosse una pistola o un fucile o lo Sten inglese. Dopo i primi momenti di paura e indecisione, si era resa conto che quella sensazione doveva essere senz'altro un sentimento primitivo e non le dispiaceva affatto. Nella camera c'erano Röder e il soldato Boa, fermi a guardare i vestiti stesi sul letto. Il soldato era così alto che, inquadrando il viso di Röder, lo vedeva solo all'altezza del petto. Doveva essere almeno 2 metri. Guardò la scena senza staccare l'occhio dal cannocchiale. Si accorse all'improvviso che la tensione l'aveva portata a mettere il dito indice sul grilletto, pronta a far fuoco. Così tolse la mano dall'arma e strinse il pugno, rimproverandosi per il rischio corso inutilmente. Il maggiore iniziò a rovistare i travestiti, prendendoli in mano uno a uno, guardandoli con attenzione. Alcuni li appoggiava di lato, altri li gettava dall'altra parte del letto, con un'espressione sprezzante. Anima si sorprese nel vedere l'agilità con la quale l'uomo maneggiava gli oggetti, nonostante gli mancasse un braccio. Pensò che doveva essere senz'altro destrorso. Forse, capitata a lei una cosa del genere, sarebbe stato un vero disastro. In famiglia aveva insistito affinché diventasse almeno ambidestra, ma lei non ne volle sapere. Era l'unica della sua età a non usare la destra e ogni volta era guardata con una certa diffidenza. Röder si appoggiò al petto una camicia bianca, stringendola tra il mento e il collo e guardandosi dall'alto in basso. Poi la scartò. Intanto parlava e dall'espressione dei suoi occhi intuì che si stava lamentando. Raccolse una giacca, la guardò allungando il braccio davanti a sé e l'appoggiò sulla schiena del graduato. Poi gliela passò. Dopo aver visionato un certo numero di vestiti, i due tedeschi iniziarono a spogliarsi. Il gigante aveva piegato la sua divisa con cura, mentre Reder stava gettando un indumento sul letto senza un ordine preciso. Rimasero entrambi in canottiere e mutande. A quel punto iniziarono a indossare gli abiti che avevano selezionato e poco dopo erano vestiti da civili. Reder con un doppio petto di lana verde, il gigante come un contadino un po' trasandato. La giacca risultava stretta di spalle e corta di manica, mentre i calzoni, che arrivavano a stento al polpaccio, erano stati infilati in lunghe calze nere. Spostò il mirino verso l'aia. I mezzi militari erano immobili uno accanto all'altro, illuminati dalla luce del sole. Inquadrò la camionetta e ne seguì il profilo. Si rese conto che c'erano delle saldature attorno alla parte che copriva il cassone. Con l'aiuto dei civili, i tedeschi stavano trasformando quell'automezzo militare in un camioncino che poteva essere scambiato per un furgone civile. Gran parte della carrozzeria aveva ancora la verniciatura mimetica e le insegne, ma se l'avessero ridipinta il dubbio sarebbe venuto a chiunque. Si scostò dal cannocchiale e guardò la scena con i suoi occhi. Poi tornò a inquadrare l'aia. Un fuoristrada aveva perso il suo tettuccio di tela, sostituito da uno in lamiera, mentre il cofano era stato cambiato con uno a marca Fiat. Qui il camuffamento era un po' più dozzinale rispetto alla camionetta, ma si capiva bene che il lavoro non era ancora finito. Accanto al fuoristrada c'era il sidecar. Il serbatoio era stato levigato e in parte riverniciato di rosso. Qualcuno stava lavorando per staccare il lato del passeggero. Tornò con lo sguardo alla camera e vide i due tedeschi specchiarsi nella parte interna dell'anta dell'armadio. Avevano un'aria soddisfatta e compiaciuta. In quel momento entrò una signora che non aveva mai visto. Aveva in mano una valigetta che appoggiò sul letto e da cui estrasse una manciata di spilli che si infilò in bocca. Poi iniziò a prendere le misure sui vestiti, mettendo un segno dove necessario. Invitò Reder a voltarsi e con gesti scoordinati gli chiese di stare in piedi dritto. Lui obbediva come un bravo scolaretto. Stava interpretando un ruolo che, probabilmente, aveva assunto più volte nella vita. Finito il lavoro, la donna si alzò e guardò la scena da lontano, sistemò le sue cose nella valigetta e uscì dalla stanza senza dire niente. Si stavano travestendo, ecco quello che stavano facendo. Avevano modificato i mezzi da guerra e stavano sistemando vestiti da indossare per farsi passare da civili. «Vigliacchi!» disse sottovoce. Prese il Mosin Nagante e lo appoggiò alla roccia, coprendolo con la tela cirata. Poi sfilò la forcella dallo scarpone e la ripose con cura nello zaino. Si appoggiò al faggio e raccolse le idee per un attimo. Le possibilità che il piano fallisse erano alte, perché i tedeschi sarebbero potuti partire da lì a qualche ora. Forse non erano ancora pronti tutti, ma ad Anima venne il dubbio che Reder e il graduato potessero fuggire proprio quel pomeriggio. Se così fosse stato, avrebbe dovuto decidere se concludere la missione affrettando i tempi e facendosi certamente scoprire, o lasciarli andare portando a casa la pelle. Concentrata su ciò che stava accadendo giù al casolare, non si era accorta che grosse nuvole scure si erano alzate dalle cime del corno alle scale e avevano offuscato il sole. Si muovevano velocemente e scendevano dalle montagne ricoprendo la vallata con una coltre di umidità e aria fredda. Verificò che il fucile fosse in sicurezza, chiuse lo zaino con i legacci di cuoio e restò in attesa della pioggia. All'inizio l'acqua scese a piccole gocce, poi si fece sempre più insistente e dopo qualche minuto divenne difficile tenere gli occhi aperti. Un forte vento risaliva la valle e arrivava fino a lei, portandosi dietro il temporale e l'odore di terra e di erba bagnata. In un attimo si ritrovò con i vestiti fradici e brividi di freddo iniziarono a tormentarla. Sistemò la coperta sulle spalle e raccolse le ginocchia chiudendosele al petto, ma non poteva fare molto di più. Provò una leggera fitta al basso ventre e si rese conto che doveva fare pipì. Se l'aspettava, dopo tutto. Si guardò attorno. L'aia era deserta. Il temporale aveva spinto i tedeschi a ripararsi nel casolare. Ci pensò un attimo, poi si decise. Scivolò sul fango fin quando non arrivò alla roccia e premendo con la schiena si alzò da terra il necessario per sfilarsi i pantaloni fino a metà coscia. Fece quello che doveva fare, poi si rimise in sesto la meglio. Quando tornò al suo posto, alzò lo zaino dal terreno e lo strinse tra le gambe. qualche lampo dava luce alla vallata e i tuoni facevano tremare il faggio. Si rese conto che non era in una posizione troppo sicura lì sotto quell'albero, ma a questo non poteva porre rimedio. Se quello doveva essere il suo ultimo giorno, preferiva andarsene colpita da un fulmine piuttosto che da un proiettile tedesco. La carezza e la mitraglia. Legge Mirko Nonnato. Agosto 1943, venerdì, Elena. La prima bomba cade il 16 luglio 1943. E la ferita non si rimarginò più. Anche se la guerra era iniziata da anni, anche se i giovani partiti per il fronte non erano più tornati, anche se la vita era diventata impossibile, l'arrivo dei bombardamenti sorprese tutti e ridestò la città dalla grigia rassegnazione nella quale era caduta. Elena era a casa e non si accorse di nulla, ma la fabbrica della Ducati non era distante dalla zona in cui erano cadute le bombe e Albertina le aveva sentite. Raccontò a Elena che per prima cosa erano arrivate le eco delle esplosioni, ottuse e sorde. Fu un bombardamento periferico, portato a termine dai Lancaster partite dal Lincolnshire in Inghilterra. Colpirono la centrale elettrica di Santa Viola, nella zona est della città, e sorpresero qualche operaio ancora alle prese con il latte e il pane raffermo della colazione. La notizia si sparse tra la gente ancor prima che in canali ufficiali. Passò da bocca in bocca, e a ogni passaggio la catastrofe diventava sempre più grande. Uscì correndo dal retro del laboratorio e si infilò in via Monte Grappa come una gatta tra i rifiuti. Girò per via Oleari, corse fino in fondo e raggiunse via Ugobassi, dove finalmente rallentò il passo. Prese a sinistra verso piazza Vittorio Emanuele, tenendosi vicino alla strada. Quando arrivò all'incrocio con via Indipendenza si fermò. Era sera ormai, ma la luce del giorno e il caldo secco di quell'agosto incendiato non lasciavano spazio all'oscurità. Guardò la gente che passava. Nessuno sembrava accorgersi del suo affanno, ma la cosa non riusciva a calmarla. Appoggiò le mani sui mattoni dell'edificio che aveva accanto, chiuse gli occhi e si concentrò sul rumore della città. Amava il caldo. Le piaceva camminare vicino ai muri riscaldati dal sole, sentire il tepore attraverso la pelle. Restò in attesa qualche secondo, assorbendo energia dalla parete di arenaria, poi riprese a correre. Piazza del Nettuno sembrava più grande. Mentre le persone si affrettavano dirette ovunque, Elena guardò attonita la fontana, senza l'imponente statua del Gian Bologna. Il Nettuno di bronzo era stato rimosso nel mese di febbraio di quell'anno e portato in zona Zanardi per preservarlo dalla guerra. Non si era mai resa conto del peso di quella statua e di come fosse vuota e solitaria la piazza senza la sua mole. La guerra era anche quello. Il mondo andava visto da prospettive diverse. Dopo il 25 luglio e la caduta di Mussolini, l'intero paese sembrava sul punto di cedere la tensione. Il re aveva messo a capo del governo Pietro Badoglio, il quale, come prima cosa, aveva istituito la legge marziale e il divieto di formare partiti politici. Ogni manifestazione era repressa con la forza dall'esercito e in molte città ci furono dei morti. A Bologna il Partito Comunista convocò numerosi comizi antifascisti e la mattina del 26 luglio in centro si riempì di operai che uscirono dalle fabbriche per raggiungere la Piazza Maggiore. Elena volle partecipare a quanti più ritrovi possibili, saltando da una piazza all'altra, assistendo a scontri impari tra manifestanti e militi. Era al Littoriale quando fu abbattuto il monumento equestre di Mussolini e mancò di poco il falso funerale organizzato in piazza Umberto I. Voleva essere al centro dell'azione, vivere in prima persona quell'incredibile momento. Per questo era rimasta in città e non era andata in vacanza. Si diresse verso il lato est della piazza, questa volta camminando. Ormai si sentiva fuori pericolo e non c'era bisogno di correre. Tuttavia l'adrenalina dava alle gambe una spinta che non riusciva a controllare. Quando arrivò in via Broccaindosso era sudata ed esausta e come sempre un po' impaurita. Nonostante l'impegno che ci metteva non aveva ancora fatto l'abitudine a condizione di clandestina. Si guardò attorno e aspettò che una coppia di signori passasse dall'altra parte della strada. Poi bussò 3 volte al portone del civico 35 e calciò 2 volte sulla parte bassa della porta. Poco dopo Silvano venne ad aprire e lei entrò nell'atrio senza voltarsi. «Quant'hai netto stavolta?» 3 chili, 2 sacchi da 1,5 chili, non potevo fare di più». «A tal de con te, benessun. Dai, vien ben d'entar». «Silvano, non parlare dialetto con me, per favore». «Oh, sapientona, mia mamma è veneta, da noi il dialetto non si parla». va bene, è la forza dell'abitudine, dai in sa». Elena si girò di spalle e sollevò leggermente la gonna sul davanti. Aveva agganciato i 2 sacchetti di farina a una corda che girava attorno al collo passando sotto la camicetta. Appoggiò il primo per terra, poi slacciò il secondo. Li raccolse entrambi, si girò e li sistemò sul tavolo. «A tal deghe!» esclamò ancora Silvano. Poi guardandole e sorridendo disse «A te lo dico!» «Quanta colla facciamo con questa?» «Di mondi!» «Silvano, piantala!» «Molta, Elena, molta! Ne facciamo per tutta l'estate e fino all'autunno. Vai a riempire il secchio». La cantina era piccola e umida, con il pavimento di terra e le pareti non intonacate. Era una zona sicura, a cui si accedeva solo dall'appartamento di Silvano, al piano terra. Nessuno nel palazzo sapeva che lì sotto era stato organizzato un piccolo centro tipografico dove una branca del Comitato di Azione Antifascista stampava i manifesti. Elena temeva il momento in cui usciva da casa per raggiungere quel posto, ma una volta dentro si sentiva a suo agio. Aveva la sensazione di far parte di un sistema, anche se ancora tutto da organizzare. Nell'angolo opposto all'entrata, proprio sopra la finestrella che dava sul portico, c'era un piccolo lavandino. Prese il paiolo e lo riempì d'acqua. Poi lo posò sul fornello a gas e accese la fiamma. «Ci vorrà un po'», disse. «Abbiamo tutto il tempo», rispose Silvano. Si era seduto al tavolino al centro della stanza e aveva iniziato ad aprire i sacchetti di farina. «Ma nessuno se ne accorge in caffetteria?» chiese. «Sono fascisti quelli, cosa vuoi che capiscano?» «Tu li sottovaluti, non dovresti». Elena raggiunse Silvano al tavolo, prese 2 contenitori di metallo e ci rovesciò dentro parte della farina, mescolando con le mani per rompere i grumi di umidità. «Non li sottovaluto», disse. «Si fidano di me, pensano che sia dei loro per via di mio padre». «Vuoi un tot fascista? Proprio tot?» «Se sono tutti fascisti? Non lo so, forse sì». «Ma non hanno un inventario?» «La farina arriva dal mulino in sacchi da 30 kg. Io prendo solo questa. Il magazzino è nel retro della cucina e ci sono momenti nei quali non ci va nessuno, tranne me». «Stai attenta. Brisa fidere, neanche di te stessa». Era un uomo che ancora non riusciva a inquadrare, nonostante lo conoscesse da quasi un anno. A pensarci bene non lo aveva mai visto senza giacca e cravatta. Sembrava un impiegato di banca. Indossava vestiti sempre puliti e stirati e le scarpe perfettamente spazzolate. Il castello crollava se lo sentivi parlare con quella sua voce scoordinata e un italiano preso per le orecchie, ma se lo vedevi da qualche metro di distanza non avresti mai immaginato che fosse un ribelle. Era premuroso, attento, a volte persino troppo sensibile. Si ricordava dei compleanni e non le permetteva di svolgere compiti difficili. Eppure era anche schivo e silenzioso, e passava interi momenti a guardarsi le unghie e aggiustarsi i capelli con un pettine di osso che teneva nella tasca interna della giacca. Naturalmente Silvano non era il suo nome, ma a parte questo di lui non sapeva niente. Elena aveva provato a chiedere, ma aveva sempre ricevuto risposte evasive. «La prima regola della lotta clandestina è tenere nascosta la propria identità», diceva. Lottava con Silvano fin dall'inizio, da quando aveva costituito il gruppo di depistaggio all'interno della prima organizzazione antifascista bolognese. Inizialmente erano in 4, poi 2 compagni furono trasferiti a un altro gruppo e ad attaccare manifesti erano rimasti loro 2. Aspettarono l'arrivo della notte nella cantina, con la colla di farina pronta e distribuita in 2 secchi, la pila di manifesti arrotolati e l'odore di muffa e acqua stantia che aveva impregnato i vestiti. Silvano aveva portato un pezzo di salame e del pane del giorno prima, si erano divisi la cena in silenzio, ma Elena mangiò senza fame. Aveva provato a chiedere al compagno dove avesse trovato tutto quel cibo, ma lui non volle dirglielo. «Devi trovarti un nome di battaglia», disse lui poco dopo. «Perché? Mi chiamo Elena, va bene così?» «No che non va bene. Se ti prendono, risalgono la tua famiglia». «Sai che roba, così trovano un fascista. Sorpresa». «Ti è una gran mazzacauna, testona». «Così dicono». «Io un'idea ce l'avrei per te. Sentiamo. Dovresti chiamarti Filosofia». «Stai scherzando?» «Hai dubbi? Sono serissimo. Ho solo finito il ginnasio». «Hai studiato più di tutti noi messi assieme. E comunque poi farai l'università, no?» «Forse», rispose Elena. «Adesso non lo so. non filosofia comunque. E cosa allora? Elena ci pensò un attimo, poi disse: davvero non ho ancora idee, non so se andrò avanti, adesso sto combattendo. A ottobre vedremo, non è così importante. Silvano si fece serio e si allungò sul tavolo, la fissò con uno sguardo tagliente, poi disse: guardate attorno, Elena. Tant va toste sgumbe, tot chi fa sesta, al padir de la zant, te dic la rob da poc, tin sbali. Sa tantir brisa de longa studier, nueter, all'ottampa niente. Rimase immobile per qualche secondo, lì steso sul tavolo, poi si rimise seduto comodo. Elena non sapeva cosa dire, non aveva compreso quasi niente di quelle parole, ma il senso era filtrato attraverso il tono risoluto che il compagno aveva usato. Restò sospesa in quella sensazione incerta, un po' obliqua, con il dubbio che il problema non fossero solo i suoi studi, ma la sua vita in generale. Fece un profondo sospiro, poi cambiò discorso. «Dimmi una cosa, Silvano, come vanno le cose al fronte? Hai notizie?» Lui sollevò lo sguardo dal salame che stava tagliando e guardò Elena con aria interrogativa. Poi stese due fette su un pezzo di pane e diede un grosso morso. Con la bocca piena rispose: «Non c'è più il fronte è qui». «Beh, ma l'esercito c'è ancora, no?» «Ma, dopo l'arresto di Mussolini non lo so. Si stanno riorganizzando. Me non so niente. Ci sono un sacco di camicie nere. Noi combattiamo i fascisti. Dal resto me ne frega una zidane. Non mi importa niente. Neanche a me importa. Benissimo, allora sono in due». Poi, se un scenario complice, chiese: «Hai notizie da quel tuo ragazzo?» La domanda la colse di sorpresa, perché Silvano non chiedeva mai niente sulla sua vita privata. Gli aveva raccontato qualcosa poco dopo averlo conosciuto, perché sperava che avesse conoscenze in qualche ufficio, ma non fu utile. Dopo quella volta non tornarono più sull'argomento. «Nessuna nuova», disse. «Ah, io capì», fece colui. Nell'ultima lettera mi diceva che stava bene, anche se il tono generale non era più così allegro e ottimista. Poi sono arrivati gli inglesi. Le lettere hanno sempre avuto una data prima della sconfitta finale. Non è mai arrivato niente dopo. Sparé! Proprio così, sparito. Mi manca, molto, la sua voce. Mi manca sapere che è lì ad aspettarmi. Mi manca sapere che c'è. Quando era qui lo sognavo, ma adesso niente. Tu ci credi ai sogni? Io sì. Non ci vedevamo spesso, ma i sogni mi tenevano vicina. È come un vuoto, una specie di niente dentro di me. In pratica è come se mi avessero tagliato un braccio. Ad garantesca il tuo braccio è sempre sul sito. Eh? Aveva parlato guardando il vuoto alla destra di Silvano, ma quando si girò lo vide rosso in viso e tremolante per l'imbarazzo. Si era spinta oltre. Silvano non era il tipo al quale fare certi discorsi. Silvano? Chiamò. Xavut. Secondo te Mussolini lo impiccano? Lule? Ma va là. Non muore mai quello. Tutti dobbiamo morire prima o poi. Ah, qua sta Levaira. Speriamo almeno che queste azioni servano a qualcosa. Hai dei dubbi? È che ogni tanto non riesco a rendermi conto se le cose stanno andando avanti, in un modo o nell'altro. Silvano si sistemò meglio sulla sedia, cercando una posizione più comoda dalla quale guardarla. Poi disse: Stan ben da sentire. Al set che anche in Germania hai ex da fare contro i nazisti? Lei lo guardò con una smorfia e disse: Silvano? In Germania, tradusse lui, lo sai che ci sono antinazisti anche lì? Non lo sapevo, rispose, non ci avevo mai pensato. Invece, anche se sono molto meno di noi. E sai come mi sento quando penso a quei compagni che rischiano la vita solo per attaccare un volantino ogni tanto? Gente che di giorno lavora per lo Stato e di notte scrive messaggi di propaganda contro chi gli paga il pane? Vuoi sapere come mi sento? Mi sento al sicuro. Ecco, proprio a sé. Mi capisci? E chiunque faccia una cosa, anche piccola, contro il regime, fa una cosa per tutti, anche per chi se ne frega. La fissò per qualche istante, poi aggiunse: adesso anche tu fai parte di un grande sistema. Non sei sola. Ti capì? Non rispose. Stava masticando lentamente una fetta di salame e rispondeva al suo sguardo severo senza muoversi. Non era la prima volta che parlavano di queste cose e ogni volta si sentiva estranea. La lotta clandestina che lei stava combattendo non superava il confine dei suoi vestiti. Non capiva l'utilità di costruire un sistema dietro quello che stavano facendo. Per lei si trattava solo di riportare a casa Udino, ovunque fosse. E Albertina. Il resto erano parole. Almeno fino a quel momento. Fuori l'aria era ancora calda, ma con l'arrivo dell'oscurità si riusciva a sopportare meglio l'afa che aveva avvolto la città in quei giorni. Elena aveva infilato nello zaino i manifesti arrotolati, lasciando a Silvano la colla e i pennelli. Quella notte erano usciti un po' più tardi del solito perché l'obiettivo era troppo in vista e non volevano correre il rischio che qualche passante desse l'allarme. Camminarono spediti fino in via San Vitale e lì si separarono. Lasciò che il compagno si dirigesse dall'altra parte della strada e solo quando lo vide guadagnare una ventina di metri adeguò l'andatura alla velocità giusta. La città era deserta e i pochi lampioni accesi non riuscivano a illuminare i portici. Risalirono via San Vitale fino a piazza Aldrovandi, poi Silvano girò a destra e si diresse al teatro comunale, con l'idea di raggiungere l'obiettivo da sud. Elena invece proseguì dritta verso il centro della città per arrivare dal lato ovest. Ritrovarsi sola aumentò il senso di euforia mista a paura e incertezza. Percepiva i suoi sensi in allerta e aveva l'impressione che la città si arricchisse di particolari a cui generalmente non faceva caso. Si accorse di un formicolio alle mani e un tremore al centro del petto. I fremiti partivano da lì e si diramavano sulle spalle e sul bacino. Strinse le mani a pugno e continuò a camminare cercando di non pensarci. Quando arrivò all'altezza del caffè Beltrami, si fermò un attimo per guardare dentro le vetrine buie. Era un luogo che le procurava uno strano sentimento di luce intensa e forte contrasto. Da ragazzino lo aveva vissuto come il paese dei balocchi, una specie di paradiso fatto di zucchero e cioccolata. Ma adesso era un posto di ritrovo per i fascisti amici di suo padre. Più volte li aveva visti parlare fitti attorno a uno dei tavolini nella stanza interna e sapeva che quando i gerarchi provenienti da Roma prendevano alloggio all'hotel Baglioni, passavano dal caffè per qualche incontro. In ogni caso non era quello l'obiettivo. Girò per via Montegrappa, poi riprese Porta di Castello, risalendo l'altura e scendendo dall'altra parte. Arrivata in via Mazzoni, si portò sul lato opposto della strada e li aspettò. Le finestre erano state serrate e la luce che arrivava dalla strada proiettava sul muro ombre lunghe e tremolanti. Palazzo Fava, sede della Casa del Fascio, era un titano assopito. Il doppio fischio arrivò all'improvviso. Guardò il punto in cui via Manzoni incrocia via Indipendenza e nell'ombra vide Silvano farle un segno. Si corsero incontro e si fermarono davanti al portone come due ladri davanti a una cassaforte. Lì dietro c'era il quartier generale dei fascisti e per lei quel luogo rappresentava il centro del problema. In quel momento si sentì una persona importante e questo la fece coraggio. «Forza!» disse Silvano. «Avan brisa dal tam da perda!» Appoggiò il secchio di colla, prese il grosso pennello, lo immerse e iniziò a spalmare il liquido denso e compatto sul pavimento. Lei tirò fuori dallo zaino la pila di volantini preparati nella cantina. Erano di carta robusta, tendente al giallo, e su ognuno di essi avevano disegnato una lettera con vernice nera. Ne passò una parte a Silvano e tenne per sé il resto. Iniziò a spiegarli uno per uno, cercando di ricomporre la sua parte di scritta. Poi li stese sullo strato di colla. Guardando Silvano muoversi incerto, si accorse che il compagno aveva qualche difficoltà a ricostruire il giusto ordine che doveva dare alle lettere. Pensò di chiedergli se aveva bisogno di un aiuto, ma alla fine decise di non farlo perché non voleva correre il rischio di offenderlo. Così si concentrò sulla sua parte e in un attimo finì il lavoro. Si allontanò di qualche passo e aspettò Silvano per guadagnare una visione insieme. Sul pavimento del portico di Palazzo Fava, proprio davanti al portone d'ingresso della Casa del Fascio e per un'area di circa 5 metri quadri, avevano appena composto la scritta «Fascisti porchi». «Perfetto!» disse Silvano guardando il risultato finale. Si girò verso Elena sorridendo e con un gesto del braccio l'invitò a guardare. «Cosa te ne pare, eh? A voi proprio star da vadere al South Fast domani mattina, sti quattro imbecilli!» Elena guardò l'uomo, poi la scritta, poi ancora l'uomo. Non sapeva se essere più imbarazzata o più contenta per il lavoro che comunque avevano fatto. Rimase lì immobile con un'espressione incerta e confusa, divertita, ma anche sospesa. «Beh?» domandò lui. «No, è un bel lavoro», disse. «Voglio dire, è abbastanza un bel lavoro. Fascisti porchi, va bene». «Puoi dirlo forte che è un bel lavoro». Ma Elena non cambiò espressione. Lui se ne accorse e disse «Ragazzina, cos'hai?» Lei non parlò, indicò solo la parola «porchi», cercando di sottolineare l'errore con lo sguardo. «Hai ragione», disse Silvano. «Dovevamo scrivere maiali, era molto meglio». la carezza e la mitraglia. Legge Yvonne Capace. Yvonne Capace. Per blocco 5. Martedì, ore 13:05. Anima. Dopo più di mezz'ora di pioggia e vento, aveva così freddo che non riusciva a fermare i tremori. Pensò che di quel periodo avrebbe dimenticato tante cose, ma non il freddo, non la fame e nemmeno la paura. Il freddo però era quello che colpiva più duro, qualcosa di torbido e di crudele. Si sommava alla pesantezza della giornata, alla fragilità del mondo nel quale stava vivendo, all'incertezza che non l'aveva mai abbandonata in tutti quei mesi. Il gelo acquistava forza, diventava più tagliente, si insinuava sotto la pelle, attraverso i muscoli, arrivava fino alle ossa. Per un attimo si fece sorprendere dalla rassegnazione. Non era la paura per l'azione che doveva compiere, nemmeno per la possibilità di perdere la vita. Aveva scommesso sul suo talento tante volte e aveva sempre vinto. Invece era tutto ciò che aveva vissuto. Erano i caduti di Montesole, i morti ammazzati contro i muri delle case a Cadotto, i fucilati a colpi di mitragliatrice nel cimitero di Casaglia e quelli nell'asilo di Cerpiano, erano tutti loro. La guerra l'aveva portata via e aveva lasciato un vuoto là dove prima c'era la sua vita. Avrebbe voluto dimenticare, invece guardò il fucile e allungò la mano fino a toccarlo. Strinse il calcio di legno e restò lì, immobile, con la vita di Raider sospesa tra le dita. Un colpo avrebbe spazzato via tutto, un gioco da ragazzi. Avrebbe fatto centro anche sparando da 300 metri più indietro quel maledetto tedesco, quel maledetto SS. Se avesse ucciso solo partigiani non sarebbe stata la stessa cosa, ma lui aveva fatto ammazzare bambini e donne, persone innocenti, ecco, l'avrebbe fatto fuori senza indugi. Si rese conto che il fisico avrebbe potuto cedere quel pomeriggio, era successo altre volte, però si era trovata al limite della sopportazione, aveva toccato il punto massimo di tensione ed era rimasta lì ad aspettare che la corda si spezzasse, ma non aveva mai mollato. Anche quando i compagni, più adulti e più forti di lei, si erano dovuti fermare, lei non aveva segnato il passo, continuando nella lotta, trovando energie sommerse, là dove era certa che non ci fosse più nulla. Così, aspettò che quel momento passasse, come era successo in altre occasioni, e passò. Con lui se ne andarono anche le nuvole e il cielo basso, quel tempaccio che aveva portato pioggia e freddo lasciò spazio a una lama di cielo azzurro, tornò in sé, non seppe come, ma in qualche modo recuperò le sue forze. Guardò il granaio e vide che il ragazzo di guardia era tornato alla sua posizione sul lato nord dell'edificio, proprio verso di lei. Nell'aia alcuni soldati si stavano pigramente rimettendo a lavoro sugli automezzi e dopo qualche istante individuò Raider. Era vestito in abiti civili e al suo passaggio tutti si girarono con un'espressione soddisfatta in viso. Ormai non c'erano più dubbi sulle reali intenzioni di quel gruppo di codardi nazisti che si trovava davanti. Mancava poco al via del loro piano, veramente poco, giusto qualche ritocco. Poi sarebbero partiti per le vie secondarie e forse gliel'avrebbero fatta. Ma non avevano fatto i conti con lei. Con la mano destra cercò la lettera che aveva in tasca. La toccò, ne testò lo spessore. Sembrava fragile. Fortunatamente non si era bagnata troppo, anche se la carta era così umida che sembrava sciogliersi. Cercò di passare la busta sul palmo della mano, poi, con un movimento delle dita, la piegò in due e la strinse delicatamente. Carezza e la mitraglia. La prossima è l'ultima lettura per la seconda puntata. L'appuntamento è domani, sempre su Radio Virus, alle 21. La lettura di quest'ultimo brano è dell'autore stesso, Massimiliano Gollini. Otto settembre 1921. di là della distesa d'acqua, un fronte di bassa pressione porta lì la linea di flusso temporale. Guardi la linea dell'orizzonte infrangersi tra i cumuli e hai la sensazione dell'esatta grandezza delle cose. Entri con i piedi in acqua e prosegui fin quando l'oceano indiano ti arriva alle ginocchia. Sfiori la superficie dell'acqua con le mani e ti bagni la faccia, poi guardi la spiaggia. Vista da lì, quella follia non sembra poi una gran cosa, vero? Un rumore in sottofondo, un disturbo, un eco. Riesco a vederti, ti sento respirare, il tuo odore. Sai che sono qui, sai che sono io. Torni a riva e ti inginocchi sulla sabbia. La solitudine di quel luogo è qualcosa che ti lascia perplesso. Hai sempre amato la solitudine, lo so bene, ma in questo momento ti senti solo in un modo diverso, come quando ti accorgi di aver sbagliato strada e non sei certo di saper tornare indietro. Io già lo sapevo che sarebbe finita così. Capita che prima o poi si guadagni un attimo di lucidità, un rilievo, una piccola vetta dalla quale lanciare uno sguardo concreto sulle cose. Non sempre, ma ogni tanto succede. A te è capitato adesso, a 10.000 chilometri da casa, a 300 chilometri dal fronte bellico, a uno dal tuo battaglione, in terra straniera, in Abissinia. E allora? Non è la tua guerra. Non è mai stata la tua guerra, non lo sarà mai. Quella gente non ha bisogno di te, così come non ha bisogno del tuo esercito. Sei stato ingannato. Tutti noi siamo stati ingannati. La distanza tra te e la guerra che stai combattendo è ancora più severa della distanza che ti divide da me. Forse non ha tanto senso pensarci adesso, mentre il peggio è già stato fatto, ma non riesci sempre a decidere che direzione dare ai tuoi pensieri. O sbaglio? Non combatterai più. Una scelta personale e definitiva. Qualcuno la chiamerà diserzione. Io in nessun modo. Inizia a camminare verso nord. Guarda la tua tenda. Scendi la collina, aggira il battaglione, sciogliti nell'aria tremolante del deserto. Fallo adesso. Nella vita si fanno errori e spesso te ne accorgi troppo tardi. A volte però si può rimediare. A volte. Torna. Da me. Spalancò gli occhi e cercò di incamerare aria, ma i polmoni erano così vuoti che non riuscì a riempirli con un solo sospiro. Si guardò attorno e si accorse che era nuda in mezzo alla stanza. Il buio era una coperta fredda e la faceva sentire distante da tutto. Non aveva paura, era solo sorpresa. Aveva visto Odino, era già successo, ma questa volta era stata un'esperienza più intensa. Non poteva essere solo opera della sua fantasia. Raggiunse lo scrittoio e rovesciò a terra il primo cassetto. La luce della luna non era sufficiente per vedere bene, ma non voleva accendere il lume. Preferiva restare sospesa in quell'istante, giusto il tempo necessario per capire. Stese sul pavimento fogli e cianfrusaglie di vario genere. Spostò di lato i vestiti del giorno prima, sparsi ovunque, poi selezionò le lettere di Odino, controllò le date, li sistemò in ordine crescente. Le mani le tremavano e faceva fatica a controllarne i movimenti, mentre i piedi scalzi non riuscivano più a muoversi da quanto erano freddi. Più volte dovette fermarsi a prendere fiato e quando finì di sistemare le buste sulle piastrelle di cotto si alzò e fece un passo indietro. Aveva letto e riletto quelle lettere chissà quante volte, cercando di imparare a memoria qualche passaggio. Le aveva anche corrette, usando una matita colorata, con l'idea di fargli vedere gli errori una volta che fosse tornato a casa. Erano tutto quello che aveva di lui e per tanto tempo erano state il suo rifugio. Poi, quando si rese conto che quei pezzi di carta non contenevano più la vita vera, li aveva riposti nel cassetto. Ma si era illusa. Le cose ritornano. E quella sera se ne rese conto. L'ultima lettera era datata 7 marzo 1941. Da quel momento, niente. Molte erano arrivate dopo la resa, ma era quasi un anno che non aveva notizie di Odino, fino a quella notte. Dall'estate dell'anno prima, quando la malattia si era aggravata, Maria dormiva da sola in una stanza al piano terra, proprio sotto la camera di Elena. Avevano deciso di spostarla lì affinché non fosse costretta a scendere le scale per arrivare alla cucina, anche se adesso difficilmente usciva dalla sua stanza. Elena entrava nella stanza della madre ogni giorno e quando lo faceva chiedeva a chiunque fosse con Maria di uscire. Aveva deciso di rivelare la sua scelta antifascista e non voleva correre il rischio che qualcuno interpretasse i loro sguardi. poi sentiva il bisogno di stare e di starle vicina da sola, cercando ancora una volta quel contatto fisico che difficilmente poteva ottenere se in camera ci fossero state altre persone. Quando la vide, Maria le chiese come mai fosse così mattiniera, ma Elena non rispose. Si avvicinò alla finestra che dava sul lato est e aprì gli scuri. Rimase lì a guardare fuori dalla finestra in cerca di nulla in particolare, mentre un sole tiepido entrò nella stanza. «Mamma, tu ci credi ai sogni?» domandò. «Perché me lo chiedi?» «È solo una domanda». Maria cercò di sedersi un po' meglio sul letto, sistemando il cuscino più in alto contro lo schienale. «Elena, per favore, versami un po' d'acqua». La ragazza temporeggiò. Aveva la mente altrove, non riusciva a staccarsi dai pensieri. Prese la caraffa e riempì un bicchiere, poi lo portò a Maria. «Tu ci credi ai sogni, mamma?» chiese ancora. «Intendi dire se credo a quello che vedo nei sogni?» «Sì». «Secondo te nei sogni si possono vedere delle cose? Magari cose che non sono ancora successe?» «Più che un sogno mi stai descrivendo una visione. E che differenza fa?» Maria beve due sorsi d'acqua e intanto guardò la figlia che si era seduta ai piedi del letto. Elena notò gli occhi vispi della madre. Erano quasi allegri. Stonavano contro il colore della sua pelle. Dopo un paio di minuti di silenzio, Maria disse: «Secondo me, i sogni e le visioni sono sguardi attraverso la stessa finestra, solo in direzioni diverse. I sogni vedono quello che c'è dentro la stanza, le visioni quello che c'è fuori. Le visioni però sono molto rare, mentre i sogni li facciamo tutti, anche se non sempre li ricordiamo. Perché? Non lo so. Io ho visto quello che c'è fuori dalla finestra». «Quindi hai avuto una visione?» «Pare di sì. E cosa hai visto?» «Odino che diserta». Elena guardò sua madre senza aspettarsi una reazione particolare. La vide appoggiarsi alla spalliera del letto cercando di rassettarsi i capelli alla meglio e poi sbattere le palpebre con una strana lentezza. Il colletto rifinito all'uncinetto della sua vestaglia aveva un angolo ripiegato su se stesso ed Elena si sporse appena per sistemarlo. Avvicinò la toiletta e rovesciò nel catino di ceramica l'acqua rimasta nella brocca. Prese un asciugamano pulito dall'armadio, lo immerse delicatamente e lo passò sul viso di Maria. Cercò di muoversi piano e con precisione. Tutta la scena si svolse in silenzio, con le due donne che cercavano ognuna di assecondare i movimenti dell'altra. Ogni gesto una cura e ogni cura un minuto di vita regalato. Poi Maria disse: «Aiutami ad alzarmi, vorrei andare un po' alla finestra». Elena la prese per un braccio e accompagnò i suoi movimenti lasciando che fosse lei a guardare. La aiutò a infilarsi le ciabatte e la sorresse fin quando non arrivarono alla finestra che dava sul retro. Davanti a loro, il noce Osvaldo stava fiero in mezzo al piccolo giardinetto e poco più avanti, oltre alla siepe, la staccionata, la vita si perdeva nella pianura fino ad arrivare alle colline che si alzavano pigre verso sud. «Povero signor Edoardo», disse Maria guardando il maggiordomo lavorare con cura a una pianta di oleandro. «Mi è dispiaciuto lasciarlo a casa». «Non l'hai lasciato a casa?» «Beh, un conto è vivere qui, come ha sempre fatto. Un conto è venire due giorni la settimana. La guerra non ha risparmiato nessuno». «Ti ricordi quando ci faceva andare a cavallo?» chiese Elena. «Certo», rispose Maria. «Elsa è sempre stata più brava di te». «Non è vero». «Sì, invece. Sembrava impalata su Tamara. Portava sempre il caschetto. Aveva classe. E ce l'ha ancora. Tu, invece, non sei mai stata una signorina». «E papà?» chiese lei cambiando discorso. Maria guardò la figlia, poi tornò sul paesaggio. Elena ebbe l'impressione che la vista della campagna la rilassasse e in qualche modo le desse un po' di energia. «Tuo padre è arrabbiatissimo, teso, distratto, e io mi sento in colpa per questo». «Perché?» «Perché non lo sto aiutando in niente. Anzi, gli sto dando solo dei pensieri». «E in cosa dovresti aiutarlo? A essere un bravo fascista?» «Elena, non ricominciare, per favore». «Va bene, scusa. Da quando è caduto Mussolini non si può più parlare di niente. Quell'uomo ha fatto il lavaggio del cervello alle persone della generazione di tuo padre». «Ma Mussolini dov'è adesso?» «Da qualche parte, al sicuro. I fascisti non sanno più cosa fare, disse Elena con un certo orgoglio. Io non ne sarei così sicura se fossi in te, rispose Maria, spegnendo sul nascere il suo slancio emotivo. Poi le prese la mano e aggiunse: come stanno andando le tue attività notturne? Così le chiamava. Attività notturne. Non lavoro mica in una casa chiusa. Non dire scemenze. Elena sorrise. Poi spiegò: mettiamo una pagliuzza nei loro occhi miopi. Speriamo che serva. Silvano mi ha detto che c'è una resistenza anche in Germania. I tedeschi sono un popolo di cultura. Ora non so cosa gli sia preso. Non erano tutti zoticoni? I loro dei. Ah, è vero. Comunque ci stiamo organizzando. Ci sono incontri quasi tutte le sere. Un vulcano sotterraneo. Prima o poi esploderà. Mi spaventa un po' questa idea. Perché? Maria attese qualche istante prima di rispondere. Poi disse: i fascisti non staranno a guardare e i tedeschi in tutto questo avranno un ruolo. Non mi intendo di politica, Elena, ma non sono stupida e non lo sei neanche tu. I fascisti sono allo sbando. Durerà poco, si riorganizzeranno. Ma non sai che gli americani sono già arrivati in Sicilia? Sì che lo so. Quindi, secondo te i tedeschi si lasceranno arrivare senza combattere? Lascia stare per un attimo le cose che ti dicono i tuoi compagni, come li chiami tu. I tedeschi non se ne andranno senza fare danni. E più si avvicinerà il momento della loro sconfitta, più diventeranno pericolosi. E i fascisti saranno con loro. Elena elaborò quelle parole con calma. Si prese tempo. Sapeva di non essere capace di una visione generale, ormai l'aveva capito. Tuttavia aveva qualche dubbio sul fatto che un esercito in ritirata perdesse tempo a fare danni. Decise comunque di tenere per sé quei pensieri, lasciando cadere l'argomento. Fu Maria a parlare. La guardò sorridendo e chiese: allora, puoi spiegarmi qual è il vero motivo di quella faccia? Elena la guardò sorpresa. Si chiese come facesse a sapere sempre tutto di lei. Poi le parole uscirono come acqua da un bollitore con il coperchio chiuso. Io l'ho visto, disse. Stava lì sulla riva del mare a guardare l'orizzonte con quei suoi occhi grigi e un po' blu. Accarezzava la superficie dell'acqua con il palmo della mano, la lisciava. Aveva dei pantaloni corti e la camicia con l'alone di sudore sul petto e sulla schiena. Guardava l'orizzonte, ne era ipnotizzato. C'erano nuvole scure che si muovevano veloci. Sembrava che stessero nascendo direttamente dall'oceano. Quando è tornato a riva, si è inginocchiato. Si è guardato attorno e poi ha iniziato a camminare. Ha risalito la duna, ha girato l'accampamento, proseguito lungo la collina. Si è fermato a guardare verso il basso per un po', ma nessuno l'ha visto. Sembrava che stesse cercando qualcosa. Era come se sapesse che stava guardando quella scena per l'ultima volta. Poi è ripartito. Gli odori, mamma. Gli odori. E il vento. Io non lo so se nei sogni si può sentire il vento. Io ero lì, accanto a lui. L'ho accompagnato, gli ho parlato. Camminavo scalza e sentivo i sassi e la terra sotto i piedi, sentivo il dolore. Non l'ho preso per mano, ma avrei voluto stringerlo, avrei voluto restare a occhi chiusi per sempre. Invece li ho aperti e mi sono trovata in piedi in mezzo alla stanza, nel buio. E avevo freddo. Ero nuda. Elena! Sta tornando, mamma, disse lei ignorandola. Sta tornando a casa e lo so solo io. Devi credermi, io lo so. Sta tornando, me l'ha promesso e adesso lo sta facendo. Maria rimase in silenzio per un po', guardando la figlia con un'espressione piena di amore e comprensione. Elena aveva gli occhi rossi e gonfi e anche se non se ne era reso conto, due lacrime di granito stavano scendendo lungo le guance. Le strinse le mani appoggiandosele sul ventre e poi disse: rinfrescati la faccia e prendi un asciugamano pulito dall'armadio. Tieni questo fazzoletto. Elena si soffiò il naso e si lavò la faccia con l'acqua della toilette, ma non si alzò per prendere un nuovo asciugamano, usò quello che era lì sul bordo del letto. Dopo quello che sembrò un secolo, Maria le strinse le mani e con lo stesso filo di voce con il quale avrebbe rivelato un segreto inviolabile, disse: quello che senti è quello che sei. Così disse. E poi si zittì. Quello stesso giorno l'Italia passò sull'altra sponda del fiume e guardò la corrente scorrere verso l'opposto. Quando Pietro Badoglio, capo del governo, finì di leggere il testo dell'armistizio, le lancette dell'orologio si inchiodarono sulle 19:42 e lì rimasero. Un piccolo scarto laterale, una pausa impercettibile, istanti chiusi in un barattolo di vetro e nascosti in cantina. Poco prima delle 7 di sera, Umberto era arrivato a casa e senza dire niente si era seduto al tavolo della cucina. Era rimasto lì in silenzio a guardare la grande radio che aveva sistemato proprio di fronte a lui, prendendola dal soggiorno. Non si era nemmeno tolto il soprabito. Elena ed Elsa si erano avvicinate in silenzio, aspettando l'arrivo di un urlo, o peggio, di un ceffone. Invece lui le aveva fatte sedere e aveva chiesto a Elsa di andare da Maria per aiutare ad arrivare fin lì. Poco dopo si ritrovavano tutte e quattro avvolte nella luce obliqua di quella sera di settembre. «Cosa succede, Umberto?» chiese Maria. «Non lo so. Adesso lo sentiamo», rispose lui. Si avvicinò alla radio e l'accese. Dopo qualche momento di silenzio, arrivò in crescendo il gracchio di una stazione sintonizzata male. Umberto prese dal taschino della giacca un pezzo di carta, dove Elena vide scritti dei numeri senza senso. Iniziò a muovere la manopola fin quando non trovò la frequenza dell'IR. Il segnale arrivò forte. «Ecco qui», disse. «Cos'è?» chiese Elena. Umberto non rispose. Si girò verso la figlia lanciando uno sguardo pesante come una alabarda. «Era solo una domanda», disse lei. «E io ho già risposto». «E io non ho capito». «Basta!» urlò Maria. «Non iniziate. Umberto, insomma, che follia mai questa?» Ma in quel momento Badoglio iniziò a leggere il comunicato. «Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni modo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Eccolo il momento dove tutto si fermò. Le parole si aggrapparono alle pareti, cercarono una via di fuga che non trovarono. Rimbalzarono nella stanza impigliando il tempo nella loro rete, frantumando una a una le certezze che tutti avevano. Elena ruppe il silenzio con una fragorosa risata. Non riusciva a smettere. Fece due passi indietro e si appoggiò al muro, poi scivolò sui talloni. I tedeschi erano diventati nemici e gli americani amici. Così, nello spazio di poche parole, iniziò a lacrimare. «Oh Gesù Maria!» disse Maria. «E adesso?» Nessuno rispose. Le donne si girarono verso Umberto in cerca di un'idea, ma lui era immobile sulla sedia, guardava davanti a sé, con la bocca socchiusa e un respiro lento e profondo. «Vorrei sapere cosa hai da ridere», disse. Elena si è ripresa quel poco per dire «Beh, insomma, Ale!» «Era tutto uno scherzo!» «Cosa stai dicendo?» «Niente, figurati, te lo spiego con calma. Fine della guerra, fine dei tedeschi, fine di voi altri fascisti». Fu un manrovescio potente. La prese tra lo zigomo sinistro e l'orecchio e la scaraventò a 2 metri di distanza, lunga distesa sul pavimento. Non sentì particolare dolore, ma non riusciva più a ragionare. Era stordita e confusa e aveva iniziato a tremare. «Tu proprio non capisci, eh?» urlò Umberto. «Non hai mai capito, mai! Credi di essere l'unica ad avere delle risposte? Credi di sapere tutto, eh? Non sai niente. Tu non hai idea di quello che succederà adesso». Si girò verso Maria ed Elsa, lasciandosi Elena alle spalle. «E voi? Guardatevi attorno, questa casa, gli animali, il caffè, si prenderanno tutto, tutto!» Maria ed Elsa lo guardavano spaventate, non capivano il senso di quelle parole, del suo gesto, del terrore che aveva negli occhi. «Chi, papà? Chi si prenderà tutto?» chiese Elsa. «Gli americani? Sono venuti stupida!» urlò rivolto alla figlia. «I tedeschi si prenderanno tutto. I tedeschi!»